diamo inizio ai lavori. Ci sono posti qui davanti che nessuno vuole occupare. Scotto, il prezzo è sempre uguale. Dai, venite giù, per favore. Andrea, metta schizzo. Non ha senso lasciare. Andrea Nocale, perché non è solo Andrea. Andrea Parigi. Parigi, Andrea Nocale. Siamo quasi con cittadini. Allora, prima di iniziare i lavori del congresso dobbiamo adempiere ad alcuni compiti precisi, intanto nominare la presidenza e poi votare il presidente effettivo del congresso. Poi chiamiamo alla presidenza Antonio Pizzinato, segretario regionale dell'ANPI, l'onorevole, per dovere e giustamente, la Vilma Conti, la compagna Vilma Conti, appena nominata cavaliere. Anche valorizzare. Poi chiamiamo l'onorevole Luciano Forni, l'onorevole Renzo Pischi che sta arrivando, è il presidente dell'associazione Guglielmo Invernizzi. Chiediamo di votare sulla nomina del presidente effettivo del congresso che è l'onorevole Luciano Forni. Credo che non bisogna. Ringrazio gli amici che sono presenti e li ringrazio anche per avermi incaricato di presiedere questo congresso. Il congresso dell'ANPI è un avvenimento importantissimo perché la nostra associazione nella società rappresenta un punto di riferimento importante, essenziale, sia per salvaguardare la memoria di quanto è avvenuto durante la Resistenza, il periodo dell'antifascismo, sia perché rappresenta ancora un movimento che intende attuare quali erano i principi su cui la Resistenza si basava e che hanno trovato attuazione negli articoli della nostra Costituzione. Quindi non è che il nostro compito è finito nel ricordare i fatti passati, nel non dimenticare le persone che hanno operato nella Resistenza. Il nostro compito continua oggi a difesa della Costituzione, a difesa della democrazia e a difesa anche della dignità dei cittadini. Purtroppo oggi noi siamo in Italia in un momento difficile, per cui si mette in discussione tante volte la Costituzione, vengono fraintesi alcuni fatti che riguardano la Resistenza, ma soprattutto oggi è venuto meno il senso morale e la dignità che invece sono quelli che hanno sostenuto i nostri combattenti e i nostri resistenti. Solo da loro oggi vengono degli esempi e ricordando i loro esempi noi usiamo a sperare ancora in un futuro per il nostro paese. Credo che tutti si rendano conto della difficoltà di questo momento e che vogliono quindi raccogliere tutte le loro forze per dare una testimonianza di vita e una testimonianza politica in un momento tanto delicato. Prima di iniziare i lavori, però, io vorrei ricordare che il signor Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, cui va la nostra più completa adesione e il nostro incondizionato sostegno, il 2 giugno del 2010 ha voluto conferire la onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana alla partigiana e nostra socia Vilma Conti. Io vorrei ricordare che la Costituzione italiana ha abolito tutti i titoli nobiliari, anche se oggi ancora ci sono coloro che si fregiano questi titoli. Ha inteso abolire tutti gli ordini dinastici e tutti gli altri ordini, salvo quelli a livello internazionale, e ha riconosciuto l'unico ordine, cioè l'unica onorificenza italiana, che è quella dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che premia coloro che si sono distinti per la loro vita, per la loro azione, per il loro impegno a favore della comunità. Il Presidente della Repubblica Napolitano in questi anni ha voluto anche ridurre il numero di coloro che erano stati insigniti di questa onorificenza, in modo da premiare solamente coloro che hanno veri meriti. E in particolare ci ha tenuto il signor Presidente della Repubblica a valorizzare l'apporto delle donne alla vita del nostro Paese. Per questo è di grandissima rilevanza il fatto che alla nostra amica e compagna Vilma Conti sia stato attribuito questa onorificenza. Il signor prefetto, l'altro giorno, di cui si ricordava il giorno della memoria, ha consegnato il diploma a coloro che sono stati insigniti dell'Ordine della Repubblica e quindi anche alla nostra amica Vilma, alla quale noi però come Ampi vogliamo anche consegnare oggi le insegne dell'Ordine della Repubblica Italiana, che sono insegne che recano una croce con lo stemma della Repubblica Italiana. Queste insegne noi le consegniamo alla nostra amica Vilma Conti, segno di gratitudine per quello che lei ha fatto in questi anni, figlia di un partigiano arrestato e torturato, è la stessa partigiana responsabile della sezione di Dongo della nostra associazione, ostetrica per tanti anni in Alto Lago, esempio di vita a cui ci si dovrebbe ispirare proprio come cittadini e come uomini democratici. Quindi facciamo ancora tanti auguri. Pensavo proprio di meritare. rappresentanti dell'associazione SOS. SOS Razzismo del Canton Ticino. Come vedete, questa è una sigla internazionale. Sono presenti i rappresentanti del Partito Comunista del Canton Ticino. Pastore della Chiesa Valdese, associazione Memoria Condivisa, Emergency, Istituto di Storia Contemporanea. Associazione Acqua Pubblica, speriamo che resti sempre pubblica, se no corriamo rischi. Il Partito dei Verdi di Como, i rappresentanti della Cooperativa Lombardia, mandano i loro saluti l'ARCI, voi sapete cos'è, no, l'ARCI, l'associazione Incroci che si occupa della messa dei poveri, il sindaco di Como ha mandato questo messaggio. Con riferimento, è molto burocratico, non è che sia una poesia o un messaggio politico. Con riferimento all'invito in oggetto, vi comunico che a causa di impegni istituzionali che ci sono assunti non potrò essere presente. Con l'occasione di io vi do i saluti. Firmato dottor Stefano Bonzi. Siccome non è l'amico che arriva fuori, ve lo leggo io, saluto anche dai rappresentanti della Federazione della Sinistra e d'Italia Cuba, che oltretutto sono quelli che ci ospitano in questa sede. Grazie. Mandato un messaggio anche all'associazione Silvano Saladino, che è stata un onlus costituita nel 2007, che persegue finalità di ordine sociale. In questo momento i lavori proseguono con la relazione della presidente uscente, l'amico Guglielmo Invernizzi. Buongiorno, grazie di essere qui. Tantissimo, veramente. La cosa con voi più e quanti giovani abbiamo, la prima volta che abbiamo così tanti giovani al congresso davanti, la cosa da può fare solo estremamente piacere. Si sente? Forse così riesco più a io ho brutto vizio di leggere perché non so parlare a braccio, per cui so che è noioso ascoltare uno che legge, chiedo scusa anticipatamente di questo. Partigiani, amici, compagni e compagno, rappresentanti di associazioni partigiani, delle istituzioni, dell'associazione amiche, apriamo oggi questo nostro congresso in un momento politico estremamente difficile. A mia memoria uno dei più difficili di questi ultimi decenni. Nonostante io sia sulla scena politica da una cinquantina d'anni, posso assicurare che in passato, a mio avviso, solo il governo Tambroni e la stagione del terrorismo furono altrettanto gravi, e questa è la ragione che giustifica le riflessioni che oggi con il vostro contributo andremo a fare. Non arriva. Così è più buono. La nostra associazione, due parole solo sulla nostra associazione, fu costituita a Roma non appena liberata il 16 giugno 1944, mentre ancora il nord Italia pativa l'occupazione nazifascista. Dopo la liberazione, essa si diffuse in tutto il paese, anche nel sud Italia, dove gli episodi di resistenza furono sporadici, ma dalle cui regioni provenivano molti dei partigiani che avevano combattuto nelle formazioni del centro-nord. In alcuni paesi europei, quali la Francia, la Jugoslavia, l'Albania e la Grecia. Alla data del 5 aprile 1945, giorno in cui fu designata come ente morale, comprendeva unitariamente tutti i partigiani italiani ed era retta da un consiglio unitario formato dai rappresentanti di tutte le formazioni che avevano operato in tempo di guerra: Brigate Garibaldi, Giustizia e Libertà, Brigate Matteotti, Mazzini, Cattoliche e Autonome. Nel 1948, a seguito gli eventi politici nazionali, anche nella nostra associazione si crearono divisioni, ne uscirono primi cattolici e gli autonomi che costituirono la Federazione Italiana Volontaria della Libertà di Enrico Mattei e nel 1949 le componenti azioniste legate a Giustizia e Libertà, da cui nacque la FIAB, Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane. Ancora oggi, come allora, l'obiettivo primario rimane la valorizzazione del ruolo storico svolto dalla lotta partigiana, anche mediante la promozione di ricerche, di testimonianze, la difesa del vilipendio e del revisionismo, il sostegno ideale ed etico dei valori della libertà e della democrazia. Alla base della Costituzione della Repubblica Italiana del 1948, nata dalla Resistenza, nella nostra associazione, oggi, grazie alle modifiche statutarie apportate al 14° congresso di Chianciano del 2006, oltre alle categorie storiche, partigiani, patrioti, componenti delle forze armate, eccetera, anche tutti i cittadini italiani senza alcuna distinzione di età che dichiarano e sottoscrivono di essere antifascisti, che sottoscrivono gli obiettivi dell'associazione, possono non solo entrare in associazione ma coprire qualsiasi carica all'interno della nostra associazione. Il Consiglio nazionale ha preparato un documento politico programmatico, il cui titolo, che è quello anche, sarà quello del Congresso nazionale, è Più forza l'antifascismo, più futuro per la democrazia, che tocca vari aspetti della politica quotidiana. Sulla crisi economica e sociale del nostro paese, l'Europa e tutto il mondo stanno attraversando un bruttissimo periodo che ha avuto maggior impatto sui lavoratori e sulle loro famiglie, sui giovani e sulle donne, che sono stati colpiti dalla disoccupazione, la totale assenza, nonostante le eleganti dichiarazioni di vari ministri, di una seria politica economica e fiscale principalmente rivolta alla conservazione del potere di acquisto di queste categorie, la totale sudditanza alle banche, agli imprenditori e alla finanza in genere, l'attacco ai diritti sindacali condotto con metodo e finalità che ricordano molto da vicino le corporazioni fasciste, questa la FIAT di recente, in sintesi chi non firma, anche sotto ricatto, e fuori come rappresentanza, una cosa non si era mai vista nel nostro paese. Non si capisce come un sindacato possa essere sempre solo d'accordo, altrimenti non c'è più, non viene riconosciuto. Alla Fiat, dicevo, ma anche alla Fincantieri, che a sua volta ha disdetto il contratto nazionale sugli stabilimenti di Genova e di Gorizia, al traino da subito sceso in campo Federmeccanica e Confindustria, che per bocca del proprio segretario dichiara la sua disponibilità a introdurre un contratto alternativo e sostitutivo di quadro nazionale. Corriamo con la formazione del sindacato, poi abbiamo l'ex segretario generale del sindacato, che chiaramente possono dire le cose meglio, ma i contratti aziendali al di fuori di quello nazionale ci sono sempre stati, sono previsti dei contratti, si tratta di contratti migliorativi generalmente, certamente non sono mai stati previsti dei contratti peggiorativi, su questo credo che non ci sia nessun dubbio. Gli fa eco alla segretaria di Federmeccanica, il ministro Sacconi, che si dichiara, è fiducioso sull'intesa che consenta alle parti in diversi ambiti aziendali e territoriali di utilizzare tutti gli strumenti contrattuali per adattare le reciproche esigenze. È evidente che il contratto nazionale rimane, bisogna vedere in che misure c'è debole rispetto a quello aziendale. Questo è il ministro. Dico, l'unica cosa evidente in una dichiarazione di questo tipo è che il ministro ha scelto da quale parte stare, e questa non è quella del lavoratore. In un paese democratico, un ministro che si dichiara orgoglioso di essere rimasto estraneo ad una trattativa e un'avvertenza così importante, come quella che riguardava la più grossa fabbrica italiana, dovrebbe dare le dimissioni per manifesta incapacità all'esercizio delle proprie funzioni. Credo che condividere le lotte operaie sia il compito primario dei sindacati, ma che la nostra associazione, quale testimone attiva della nascita della Costituzione Repubblicana, con i propri martiri, con i propri rappresentanti e in rappresentanza di tutti i cittadini che credono nella legge universale della democrazia, debba mobilitarsi in particolar modo fra i giovani per proporre una grande alleanza a tutti i movimenti democratici, sindacati, partiti e associazioni che si riconoscono in quei valori, per esercitare quella funzione di coscienza critica della democrazia e della società che più di 60 anni fa ci siamo dati per statuto. Necessita una riflessione da parte di tutti sull'attuale legge elettorale. Penso si sia tutti d'accordo sulla necessità di ridare agli elettori quel minimo di dignità necessario allo svolgimento del proprio dovere democratico ripristinando il voto di preferenza e togliendo in questo modo il nefasto strapotere regalato da un'infame legge definita porcata dal suo stesso estensore, che dice tutto, alle segreterie dei partiti. Ritengo che questo sia solo un primo passo e che il paragrafo del documento programmatico dedicato a questo argomento sia un po' riduttivo. Occorre ragionare anche con urgenza sul premio di maggioranza data alle coalizioni. Se nelle intenzioni originali questo doveva servire a garantire maggiore stabilità, e questo non è avvenuto, la durata media delle legislazioni pare quella della prima Repubblica, né più né meno. Quindi non ha prodotto nessuna stabilità di nessun tipo, e invece ha prodotto una miriade di partiti, adesso io non è che tenga conto, credo che siano 68 complessivamente i movimenti che si rappresentano, che si presentano alle elezioni all'interno delle coalizioni. Che pur contando poco, a volte meno di niente, condizionano in maniera pesante l'attività di governo. In questi anni abbiamo assistito alla caduta di governi di destra e di sinistra che pure a volte godevano di maggioranze cospicue. L'obbligo, appena una sconfitta sicura della Costituzione, di coalizioni eterogenee, non legate profondamente da motivi ideologici, ha portato a ricatti e ricattini peggiori di quello che avveniva con il precedente modello proporzionale. E lo dico con tutta sincerità, io sono uno di quelli che aveva creduto nel maggioritario e quindi aveva votato anche il referendum in quel modo, che invece è servito solo a snaturare la storia dei partiti, proprio l'abbiamo cancellata completamente, anche di quelli che quest'Italia aveva contribuito con sangue dei propri militanti a costruire. Ci battiamo per una giustizia fondata sul principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e per una magistratura autonoma e non assoggettata al potere politico. Contro la vergogna delle leggi ad personam, oggi come domani, la vergogna di questi anni che si può riassumere brevemente così. Nel 2004 il lodo Schifani la consulta ne dichiara l'illegittimità. Sì. L'approvazione aveva costituito Berlusconi sospendere lo stralcio SME. 2006 le CDL, la consulta boccia ripetutamente le nuove norme sulla prescrizione breve e in particolare le previsioni di poterle applicare anche ai processi già in corso. Quindi con forma retroattiva, come ormai è prassi nelle cose che questo governo presenta, in corso per cui naturalmente anche quelle di Berlusconi. 2007, legge Pecorella, la Corte azzera la legge dell'ex avvocato di Berlusconi e Presidente della Commissione Giustizia, che impediva l'appello per il PM che perde il processo. In pratica, un PM che perdeva in prima istanza un processo non poteva appellarsi, se una delle due parti non si appellava, il processo era finito al primo grado. Nel 2008 lodo Alfano, Berlusconi torna a Palazzo Chigi, guarda Sicilia, Gino Alfano emana un secondo lodo, uno scudo per le prime quattro cariche dello Stato. Nell'ottobre del 2009 altro stop della consulta. Questa è in breve la cronistoria di tutti i tentativi fatti da questa maggioranza per chiudere, diciamo, certi processi. In Italia l'immigrazione è una grande questione nazionale da affrontare con adeguate politiche strutturali di accoglienza e di integrazione e non esasperando le paure della gente a veri fini elettoralistici. Risolute l'opposizione dell'antirazzismo e della xenofobia, come dimostrato con la grande manifestazione nazionale di Milano, Milano-Venezia, nel dicembre del 2009. La nostra storia di paesi di migranti e la vergogna per la legislazione del periodo fascista devono essere gli elementi che ci fanno essere vicini a quei popoli che rivivono oggi l'odissea che fu nostra nei secoli passati. Un ulteriore passo in avanti in questo senso l'ANPI lo può fare ammettendo all'interno dell'associazione anche quei migranti che lavorano nel nostro paese, quindi hanno un posto di lavoro e un permesso di soggiorno, pur non essendo cittadini italiani. Quei migranti che lo desiderano ovviamente, perché dobbiamo andare a raccogliere i migranti italiani. L'unità dell'Italia riconquistata dalla Resistenza è un bene irrinunciabile per il presente e per il futuro del Paese. Siamo contro il secessionismo leghista, che sa tanto di guerra di diritti contro i poveri e che riteniamo di stampo razzista. Siamo invece per l'attuazione della Costituzione, laddove si parla di federalismo e di autonomia locale, perché mantengono in loro il principio di sussidiarietà. Forte è la preoccupazione per il persistere della crisi della questione morale che investe responsabilità di governo nazionale e locale, i partiti e la politica nel suo insieme. Debellare la corruzione e impedire le elezioni di figuri già condannati per gravi reati di mafia o contro la pubblica amministrazione, anche se in maniera non definitiva, contrastare l'evasione fiscale e l'illegalità, definire una volta per tutte e per tutti il conflitto di interessi. Dall'esito di questa battaglia dipende il futuro della democrazia. E non ci riferiamo solo al Presidente del Consiglio. Il degrado e la perdita di prestigio della nostra scuola, anche là dove eravamo eccellenza, un esempio per tutti il Politecnico di Milano, che ha perso una serie di posizioni a livello internazionale spaventose in questi anni, è il sintomo, ma ora dovremmo dire che si tratta della diagnosi, di un malessere che va di pari passo con il precariato. Le nostre scuole, anche quelle professionali che tanto hanno dato in passato in fatto di tecnici al mondo del lavoro, sono diventate fabbriche di disoccupati. I programmi di studio della storia sono fermi al periodo fascista, anche se formalmente vengono più avanti, ma in realtà le scuole non ci arrivano, qualche insegnante che di suo fa questo lavoro. Eppure qualsiasi paese democratico dovrebbe farsi vanto di quegli uomini e di quelle forze politiche che col proprio sacrificio, anche fisico, hanno contribuito alla liberazione dalla dittatura. Che cosa possiamo aspettarci da quei cittadini così malamente educati dalla nostra scuola? Così come per la scuola, le cose sono evidentemente una conseguenza dell'altra, il precariato nel mondo del lavoro, nato in nome della modernizzazione del rapporto di lavoro e della sua conseguente mobilità, è la dura realtà con cui devono convivere le nuove generazioni e non solo. Il processo di frammentazione prodotto da questa visione ha portato a gravissimi danni non solo sul piano personale con l'incertezza e la precarietà del posto, ma anche sul piano sociale creando dipendenti di serie A e di serie B. Provate a pensare a un interinale con la prospettiva del proprio contratto in scadenza alla fine del mese, dal punto di vista sindacale cosa può fare? Niente. Se appena si muove, se appena fa qualcosa, il mese dopo non gli viene rinnovato il contratto, non gli viene trovato un altro posto di lavoro. Io sono andato a lavorare in fabbrica nel 1956, fabbrica metalmeccanica da Zocca di Camerlano. 300 operai, non c'era commissione interna, non esisteva. Ho visto portare via i carabinieri, i primi eletti nella commissione interna, ma ho visto anche i primi scioperi, a cui ho partecipato e che venivano organizzati allora dalla FIOM nel 1956-57, erano proprio contro i contratti a tempo. Allora erano vigenti, poi erano stati aboliti, oggi sono ritornati nella sostanza perché i terminali fanno questo di lavoro, cioè hanno dei contratti a tempo. Perché chi aveva un contratto a tempo non aveva la garanzia del posto di lavoro, chiaramente non aveva nessuna libertà sindacale da utilizzare. Siamo ritornati indietro 50 anni, in sostanza, non è che le cose siano andate molto avanti. La radicalizzazione della lotta politica si è purtroppo riflessa anche sull'informazione, sia radiotelevisiva che cartacea. Nel primo caso anche il più clamoroso, essendo la maggior fonte di informazioni per la stragrande maggioranza della popolazione, l'occupazione sistematica della direzione della TV di Stato, attuata con precisione chirurgica dai vari governi centrodestra, di questi ultimi 15 anni ha portato allo stravolgimento delle informazioni. Giornalisti faziosi che non pongono domande, le porgono, che non rilevano omissioni o plateali falsi, ma li asseverano ai voleri della maggioranza. La ripetizione costante e ossessionante di verità di parte fino a farle diventare verità assolute. Gli attacchi quotidiani a magistrati, gli attacchi quotidiani a magistrati e giornalisti retti non essere asserviti al governo. Il costante richiamo al fatto che i giornalisti stipendiati dalla televisione pubblica, quindi con i soldi di tutti, anche di quelli che votano la maggioranza, si permettono di criticare il governo, inculcano alla gente comune queste verità stravolte. Non andiamo meglio con la stampa, al di là della barzelletta che tutta la stampa sia di sinistra, i giornali della famiglia Berlusconi hanno in questi anni introdotto un metodo terribile, antidemocratico e sovversivo. Citiamo solo gli ultimi episodi, titoli di prima pagina per giorni e giorni, a volte per mesi, su avversari politici, Fassino per la famosa frase sulla banca del lavoro, Boffo, direttore dell'Avvenire, quotidiano dei Vescovi, sputtanato per ricattare la Chiesa, Fini infangato per una cosa che nella migliore delle ipotesi è un affare interno a N, e di questi giorni la vergognosa campagna contro Vendola, colpevole di essere un omosessuale, dichiarato, e dall'altro ieri la campagna contro Pierre Boccassini per un bacio dato nel 1982 a un giornalista di sinistra. Ovviamente dopo la dichiarazione del premier di non aver mai avuto rapporti con una donna di sinistra, anche un bacio a un presunto comunista per giunta 30 anni fa, la dice lunga da dove vengono questi magistrati. Innumerevoli fatti di questi ultimi anni che ci devono preoccupare seriamente, il sottovalutarli, o peggio, accettarli come atteggiamenti folclorici è forse l'errore più grande che possiamo fare. Alcuni di questi fatti riguardano proprio la sensibilità nostra e la nostra associazione. Ne citerò solo alcuni. Tutti sapete che da anni è nato un tentativo vergognoso di cooperazione fra partigiani e repubblichini, sia nei discorsi ufficiali che nei fatti. Il nostro sindaco, mi riferisco a quello di Como, che per la prima volta in vita sua ci ha anche mandato, diciamo, un messaggio. È maestro in questo, chi partecipa al 25 aprile a Como lo sa, ma non è che devo raccontare. Ma anche a livello più alto, non scherzo, si è tentato di far passare una legge che, equiparando a tutti quelli che avevano combattuto in un esercito di liberazione o di occupazione, poco importa, avessero diritto alla pensione e riconoscimenti per fatti di guerra. Chiaramente era per far entrare i repubblichini. A Milano si voleva riunire nel famiglia del cimitero maggiore del Salvi Fascisti della Repubblica Sociale di Salò, con quelli dei partigiani. E in questo periodo di discussione in Parlamento, una nuova legge, la 3442, porta al titolo Disposizioni concernenti l'associazione di interesse delle forze armate, che se approvata così come formulata, toglierebbe l'ampio riconoscimento con tutte le conseguenze del caso, perché uno degli articoli prevede esplicitamente che le associazioni non devono essere politiche, parliamo di partito e politiche. L'ambi si marca di essere un'associazione politica. Inoltre aprirebbe le porte ad associazioni di chiara marca fascista, come quelle degli esseri pubblichini. Lascio al compagno Pizzinato, che la conosce meglio, nelle sue conclusioni illustrerà un po' meglio questa legge che non è ancora stata votata, ma che rischia veramente di essere votata. Tutti siamo informati dei fatti di Adro, degli 800 simili leghisti in partito messi nella squadra del comune e del rifiuto del sindaco di imparare una sentenza del tribunale che lo obbliga a toglierli. Si tratta di un fatto gravissimo. L'occupazione politica della squadra da parte di un partito non si era mai vista se non nel famigerato ventennio fascista, e nemmeno allora con questa copertura. Non è purtroppo solo caso. Qualche anno fa da Zate Brianza le panchine del parco sono state sponsorizzate dalla Lega, con tanto di storia delle armi, ferro battute, sono ancora. La risposta dell'amministrazione è stata che siccome le hanno pagate loro, non c'era ragione di togliere. Per restare nella nostra Brianza, questo è un fatto ancora più grave, a Lissone, che non riguarda la nostra provincia, però ve lo racconto perché è un fatto che è passato da noi, assolutamente nessuno ne ha parlato nei nostri giornali, ne parlo di Como, la provincia non è neanche accennata. Allora, a Lissone, la giunta a maggioranza leghista, che già nel lontano 2003 aveva promosso una mostra di dipinti del Novecento Lombardo col titolo Naturalismo Padano, scritto bene in verde Lega, in modo che nessuno avesse dubbi su cosa voleva essere, cosa volesse dire Naturalismo Padano, poi erano quadri del Novecento Lombardo, con la Lega c'entravano assolutamente niente, ovviamente, no? Dall'ottobre dello scorso anno ha negato la partecipazione ad un evento organizzato dal Museo d'Arte Contemporanea di Lissone, ai componenti del gruppo Coinè, che aveva presentato il progetto per un'opera, fra parentesi, astratta, quindi, dal titolo Per non dimenticare, dedicata a quattro ragazzi partigiani fucilati in Piazza della Libertà di Sole nel giugno del 1944 dai nazisti. La risibile motivazione dell'assessore alla cultura e alle tradizioni locali Daniela Ronchi, riportata agli artisti dal direttore del museo professor Luigi Cavadini, con quale essendo un amico ci ha anche litigato per questa questione, è la seguente. Il semplice tributo alla memoria al quale l'artista si ispirava avrebbe potuto creare tensioni politiche all'interno del Consiglio Comunale della città di Vissuti. E il consiglio era di cambiare il titolo, non l'opera, tanto l'opera capiva nessuno, cioè, non è che c'era rappresentata la fucilazione o qualcosa. Era di cambiare il titolo dell'opera e tutto si sarebbe aggiustato, mentre il gruppo poi non si è rifiutato questa operazione e è rimasto fuori da questa manifestazione. Ora siamo a questo livello, insomma, cioè, persino un'opera astratta con un titolo che fra altre cose ve lo ripeto proprio perché il titolo era Per non dimenticare, cioè non si diceva niente nel titolo, se non un vago così, si sapeva perché nel progetto l'avevano scritto che questo che questi padri, come dire, era per non dimenticare la fucilazione di questi quattro ragazzi, no, a cui è intitolato la Piazza Libertà, tra altre cose, a Lissone, cambieranno presto come titolazione ovviamente. Allora, sicuramente più importante è la provocazione di Voghera, politicamente molto più importante, o perlomeno altrettanto importante. Sul muro del castello dove furono imprigionati, torturati e uccisi partigiani antifascisti è stata posta una targa in memoria di sei repubblichini esponenti delle Brigate Nere e delle tedesco, reparto per la sicurezza della Repubblica Sociale Italiana diretto dal Comando Tedesco dell'Alta Italia. Fucilati proprio colpevoli di gravi crimini di guerra il 13 maggio 1945. Quindi sulle carceri dove erano torturati e uccisi i partigiani, come Voghera ha messo una targa in ricordo di questi militi, di queste famigerate bande. Nonostante le manifestazioni e le richieste fatte da associazioni, partiti e cittadini, in dispregio della memoria e della storia antifascista della nostra nazione, la targa è rimasta in opera. Sono ormai centinaia i fatti di questo genere e noi dobbiamo trovare una risposta adeguata. Dobbiamo sentire perciò la necessità che la grande eredità della resistenza che ha portato la libertà, la Costituzione e la democrazia sia consegnata alle nuove generazioni. Prima delle resistenze c'era il fascismo e la dittatura e furono i partigiani a consegnarci questo nuovo mondo. Ora tocca a noi e le generazioni che ci seguiranno a portare avanti questi valori. L'ANPI è una grande organizzazione politica, non è solo un insieme di partigiani o di antifascisti più giovani che stanno al margine della società italiana per vedere quello che succede. L'ANPI è una grande associazione antifascista, attenta però a tutte le cose che si muovono nel paese, ma nello stesso tempo non vuole essere la cinghia di trasmissione di nessun partito. Lo dice la nostra storia antica e recente, siamo sempre stati i primi a difendere la Costituzione e la magistratura, oggi il nostro compito è ancora più gravoso. Dobbiamo catalizzare quell'enorme massa di cittadini non iscritta a partiti o organizzazioni per non farci trovare impreparati di fronte ai pericoli che minacciano la democrazia. Per finire, due parole sulla nostra organizzazione territoriale. Dal 2006 a oggi abbiamo avuto un incremento di circa 100-130 iscritti. Oggi siamo attestati un numero complessivo di 400-450 iscritti, pensiamo al tesseramento ultimato, ci mancano ancora alcune tessere del 2010, anche se è già iniziato il tesseramento del 2011. Mi risulta, ma potrei anche sbagliarmi, che fino allo scorso congresso, 5 anni fa, la nostra associazione organizzava un solo congresso di sezione, quello di Dongo, che era la sezione più grossa, anzi l'unica sezione veramente grossa, con più di 100 iscritti, ed era l'unica ad avere degli organismi regolarmente eletti, gli organismi dirigenti regolarmente eletti. Tutti gli altri iscritti, anche dove esisteva formalmente una sezione, hanno sempre fatto capo al comitato provinciale. Oggi possiamo dire innanzitutto di avere nuove e importanti realtà. Le sezioni del sempre di Dongo, con più di 100 iscritti, sono le più grandi della provincia. La nuova sezione di Uggiate Trevano, con 30 iscritti, tutti giovani, è una cosa incredibile, veramente, a quale va tutto il nostro rispetto. Che si è costituita in ottobre dello scorso anno. E l'altrettanto nuova sezione Svago, che comprende le varie realtà della sponda Bellagina, oltre alle sezioni storiche di Monguzzo, Tremezzo e Porlezza. Ci eravamo dato l'obiettivo di portare a compimento tutti i congressi sezionali, non ci siamo riusciti. Vedremo di farlo prima del congresso nazionale, anche se dopo il congresso provinciale. Se non altro per darci un'organizzazione nuova, più rispondente alla realtà odierna, e un po' come abbiamo fatto Como, cioè a Como dopo la morte del compagno Perugini, a cui va sempre il nostro ringraziamento e il nostro ricordo. Che non era solo, come ho già detto una volta, una colonna dell'Ampi, ma era l'Ampi, cioè proprio nel senso della parola. Siamo rimasti molto disorientati. Lui aveva in mano tutto in assoluto, la maggior parte di noi, anzi direi tutti noi del Consiglio Provinciale che potrebbero lavorare, lavorano ancora, anche se magari pensionati, come il mio caso e qualche quello di qualcun altro. C'è voluto un po' di assestamento da quest'anno, grazie all'impegno di Antonio Proietto e di Fiorella Villa, che garantiscono innanzitutto una presenza in sede almeno due volte alla settimana, ma hanno preso veramente in mano tutto, quindi hanno rilineato le carte, rifatto gli elenchi degli iscritti, così sono riusciti a recuperare un po' quello dopo, poi vi leggerei i dati, quello che avevamo perso nel 2009, e stiamo avviando direi su una buona strada da questo punto di vista. Senz'altro abbiamo risolto un grosso problema. Allora, continuando, un fenomeno che si registra nella nostra provincia come in tutta Italia è la preponderante presenza di giovani fra i nuovi iscritti. È una sezione particolare, ma l'ho già detto, quella di Uggiate, composta di Soggio. A tutti loro un caldo benvenuto nel grande mondo dell'antifascismo e della democrazia. A tutti i giovani iscritti vorrei dire, anche in nome dei nostri partigiani, che sono la nostra speranza e il nostro futuro. Un po' retorica la cosa, ma è vero. Partendo da loro apriremo la nuova stagione dell'Ampi, fatta non solo di celebrazioni, ma di lavoro, di incontri, di manifestazioni. Vorrei a questo proposito fare una proposta a tutte le sezioni. Tratta di questo. Il compagno Perugini aveva un cruccio che mi aveva espresso tante volte e voleva catalogare tutte le targhe in memoria dei partigiani caduti per non perdere la memoria e per restaurarle. Le targhe che sono esposte sui muri, nelle piazze, nelle vie, sui muri del cimitero. Voleva anche trovare le foto dei partigiani. Possiamo aggiungere anche quello. Gli dissi sempre di sì, ma non fece mai niente, quindi me ne assumo assolutamente tutta la responsabilità. Aveva però visto giusto, è arrivato il momento di prendere partecipe la gente che passa distrattamente di fronte a questi luoghi dimenticati dai più. Adottiamo questi cimeli della resistenza e riportiamoli a nuova vita. Il Comitato Provinciale può fare da coordinatore a questa iniziativa e anche intervenire finanziariamente laddove sia necessario. Scusate per la lungaggine dell'esposizione e per il fatto di averla letta, magari non si sarà capito tutto. Vorrei chiudere con poche righe, preso da un documento, onestamente non ricordo chi l'ha scritto, scaricato dal computer, quello ho perso ancora, quindi mi scuso per la mancata citazione con l'autore di queste righe, ma non so, perché magari Pizzicato invece lo sa, ce lo dirò. Ritengo che siano così ben fatte, così ben scritte, da poter essere un po' la sintesi politica della nostra associazione. Queste qualcuno ha chiesto qualcosa? No, scusate. Dice l'Ampi, testimone della Costituzione, ne chiede il rispetto pieno a partire dai valori e dalle regole di solidarietà e responsabilità che ne costituiscono la base. A questo fine propone una grande alleanza con i partiti antifascisti, le confederazioni sindacali e il vasto associazionismo democratico. L'Ampi non è un partito, ma è e vuole essere un'associazione culturalmente e politicamente pluralista, come lo fu la Resistenza, per esercitare con credibilità e vasta partecipazione la funzione di coscienza critica della democrazia e della società. Grazie. Ringrazio il Presidente Invernizzi per la sua relazione esauriente e chiara. e a questo punto devo dare la parola ad alcuni rappresentanti di associazioni che sono intervenute. Darei la parola per primo al rappresentante dell'associazione Memoria Condivisa, che è il professor Fontana, sta svolgendo un'azione meritoria e importante nella scuola, particolarmente per il modo del liceo scientifico, proprio per difendere la memoria degli anni passati, in particolar modo la Resistenza, per difendere la Costituzione e per invitare i giovani a partecipare alla vita politica democratica del nostro paese. Parola al professor Fontana. Mi scuso innanzitutto per parlare per primo e quindi arrogarmi un'importanza che non ho, e ci saranno senz'altro incrementi molto più significativi, molto più importanti. E la motivazione banale è semplicemente che devo assistere mia mamma che sta riposando in questo momento, ma non posso lasciarla sola troppo, quindi ho chiesto se è possibile mettermi su. Porto il saluto dell'Associazione Memoria Condivisa, associazione fondata in Puglia in particolare, e del suo presidente Mario Vampaia. E l'Associazione Memoria Condivisa ha collaborato con noi per formare un gruppetto di persone che agisse qui a livello locale. È un'associazione di pareti delle vittime delle stragi del terrorismo, e io cercherò semplicemente, al di là dell'ufficialità del saluto, di mostrare come ci siano alcuni incroci che sono biografici, in qualche modo ideali, che mi sembra possano inserirsi a pieno titolo questa occasione. Ovviamente io sono qui e potrei parlare come un normalissimo cittadino, e il compito di fare riferimento a alcuni valori e applicarli e attualizzarli nel contesto della società è un compito che riguarda tutti noi, e ognuno di voi penso potrebbe alzarsi e dire come si pone questo problema. Io un altro aspetto, diciamo, biografico è quello di fare professore, e quindi questo problema si pone in maniera diversa, più acuta, perché un professore di storia in particolare deve fare in modo che queste cose diventino non semplicemente materia di studio, come lamentava prima il vostro presidente, ma anche qualcosa di reale, qualcosa di vissuto, se si vuole sperare che poi germogliere in qualche modo in futuro e siamo presenti, diciamo, nella consapevolezza, nella coscienza. Vi faccio un esempio così ci intendiamo. Ho rincontrato pochi giorni fa un studente, un brillante attore che è impegnato soprattutto in forme di teatro civile, e quindi ha recitato un monologo qua all'Astro, qui proprio vicino, ricordando la figura di Peppino Impastato, ma ho scoperto che negli anni passati, tra il compito del suo gruppo eccetera, oltre a fare l'attore con la sua professione, hanno realizzato uno spettacolo legato a Piazza Fontana, e due anni prima alcuni aspetti tratti dalla biografia, dalla vita di Antonio Gramsci. Quindi trovare uno studente in qualche modo che si fa carico di portare ai teatri d'Italia esperienze di questo genere fa capire che in qualche maniera, insomma, qualcosa da farci l'abbiamo. Io concludo molto rapidamente mostrando questi incroci di cui vi parlavo. L'associazione Memoria Condivisa è in Puglia perché un grandissimo numero di vittime della strage di Bologna era proprio legata a Bari e a Puglia. E il cognato del presidente dell'associazione, Luigi Pinto, è una tra le vittime della strage in Piazza della Loggia, quindi risaliamo al 1974. La strage era del 8 giugno, e Luigi Pinto, per le ferite riportate, era appoggiato a una colonna quando esplosa il chilo di tritolo in Piazza della Loggia. Luigi Pinto è morto 3 giorni dopo. E chi era Luigi Pinto? Luigi Pinto era un giovane insegnante, giovane insegnante di educazione tecnica alla scuola media, che era iscritto alla CGIL, e se uno scorre l'elenco delle vittime in Piazza della Loggia scopre che erano tutti iscritti alla CGIL o al Partito Comunista. E non era un caso, cioè era una manifestazione dichiaratamente antifascista, cioè era una manifestazione di coraggio a Brescia dopo che c'erano state una serie di attentati e di minacce dichiaratamente fasciste. Siamo in un momento storico molto particolare della storia. E quindi la strage di Piazza della Loggia di Brescia ha un legame molto particolare con l'antifascismo. Ma continuiamo con gli incroci, che sono molto più che coincidenze. L'idea di dover far conoscere, di far conoscere i testimoni, di stare dalla parte delle vittime, e di fare in modo che non ci fosse dimenticanza tra questi episodi della storia d'Italia che praticamente mai si sono conclusi con delle condanne. E la congiuntaccia dei parenti delle vittime nel riferirsi al bisogno di giustizia alla Costituzione, che è in qualche modo un elemento fondamentale. Non vogliono vendere per queste persone, vogliono che l'Italia sia un paese nel quale la giustizia faccia suo corso e nel quale la Costituzione passi dalla carta alla realtà. Bene, la motivazione, diciamo, locale per fare un'iniziativa rivolta soprattutto ai giovani, non solo, era anche nel ricordo della famiglia Mauri. La famiglia Mauri, quindi piccolo Luca, la madre Anna Bosio e Carlo Mauri, morti a Bologna il 2 agosto di 30 anni fa, 1980. E qui troviamo un'altra coincidenza in qualche modo. Come la famiglia Mauri abbia attraversato degli episodi drammatici della storia italiana. Era una famiglia umile che risiedeva nel centro di Como, vicino a Piazza San Fedele, forse alcuni di voi ricorderanno, un uomo mite, un uomo semplice, che era Guglielmo Mauri, era un fruttivendolo e polivendolo vicino a San Fedele, in via dei Scarchi. Bene, questo uomo comune, poi segnato da questa terribile tragedia della perdita del figlio, della famiglia del figlio, era stato prigioniero di guerra in Germania. Ed era stato prigioniero di guerra in Germania insieme ad altri lombardi, in particolare comaschi. E tra questi comaschi c'era anche mio padre. E il racconto di questo lato un po' dimenticato per molti anni della dignità, in qualche modo, degli italiani che hanno rifiutato di combattere con i tedeschi e hanno vissuto l'esperienza durissima della prigione in Germania. Ecco, questo è una parte della mia biografia, un racconto che io ho sentito fin da bambino, un racconto che io ho cercato di portare, finché mio padre è stato vivo, nelle scuole perché i ragazzi potessero vedere non la storia sulle pagine dei libri, ma anche nel viso, nella carne, nelle parole delle persone che l'hanno visto. E non casuale riconoscimento, l'opera meritoria che ha fatto proprio a Como l'Istituto Comasco di Storia della Resistenza e poi di Storia Contemporanea, l'Istituto Perretta, che in qualche maniera ha avuto un ruolo centrale in Italia proprio per ricostruire la storia di queste persone che per decenni in qualche maniera sono rimaste nell'ombra, che non hanno visto riconosciuto in qualche modo il valore della loro esperienza. Con molta difficoltà oggi, grazie proprio a questo lavoro, abbiano riconosciuto la loro storia e in qualche caso anche un riconoscimento ufficiale di quello che è stato il loro ruolo e la loro importanza. Dico in qualche caso perché la cosa sta andando molto di lento e ahimè molte di queste persone che avrebbero molto apprezzato un riconoscimento materiale ma anche simbolico non hanno fatto in tempo a vederlo perché ormai molto anziane, tra questo mio padre, sono morte prima che questo arrivasse. Giusto in questi giorni noi leggiamo come progressivamente ci sia un riconoscimento di queste cose. Io credo che questo lavoro sia molto importante e prendiamo merito a chi lo ha svolto. Io ho finito e vi ringrazio tutti. Grazie al professor Fontana. raccontare una testimonianza importante. Diamo la parola per un saluto, prego di essere anche brevi perché il tempo che abbiamo a disposizione non è molto, il sole sta già calando. Lei la parola alla dottoressa Elisabetta Patelli, che rappresenta il Partito dei Verdi. È già andata. Aveva due figli insieme, lei si vedrà quando verrà all'assemblea con i figli. Diamo la parola all'amico Lusso, l'amico, io lo chiamo amico con un linguaggio un po' democristiano, all'amico Russolino, presidente dell'associazione. Noi in Italia pure sono sempre stato qualche cannonamento, diciamo. Il compagno Forni, qualche cannonamento. Beh, compagno, peggio, siamo qui in alcuni momenti parecchi di noce, perciò non hanno in doppia veste. Oltre adesso militante di Italia Pubblica, diceva Forni, sono il segretario del Giovanni Cicci di Italia Pubblica, come dato in questa veste chiesto l'intervento per portare il saluto alla Associazione Italia Pubblica. Perché sono tante le cose che uniscono l'Ampa Italia Pubblica. Basti vedere che come nello statuto dell'Italia Pubblica, nell'articolo 1, principi ispiratori, si cita testualmente l'Associazione Nazionale di Amicizie Italia Pubblica si ispira agli ideali della resistenza italiana e della rivoluzione cubana. Nel commentare le cose che ci uniscono non si può non ricordare Gino Donè. Gino Donè è stato un partigiano della missione Nelson, operante nell'area della Laguna Veneziana. Gino, a fine guerra, riceve un incontro con generale Alexander e poi emigra a Cuba ed entra nel movimento rivoluzionario castrista 26 luglio è una data che ricorda l'assalto dei castristi 26 luglio del 53 alla caserma di Bayamo e Santiago di Cuba, in quanto ex partigiano italiano di collabora ed estremamente militare un grado di tenente al terzo plotone comandato dal capitano Raul Casa. Gino Donè è stato l'unico europeo ad aver partecipato alla rivoluzione cubana. È uno dei quattro stranieri, insieme all'argentino Ernesto Che Guevara, al messicano Porcia, al dominicano Dacon, ad essersi imbarcato sul Granma per dare inizio alla guerra di liberazione nazionale contro il dittatore Battista. Dicevo prima che sono qui per portare il saluto al ciclo di comune dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia Pubblica. Questa associazione nasce nell'aprile del 1961, sul mondo della preoccupazione e comunque dell'interesse attorno a Cuba, sorta anche in Italia in uno dei momenti drammatici della storia di quel paese. L'aggressione per il mercenario a Palais de Giron, meglio conosciuto come Palais de Corci. L'obiettivo dell'associazione è quello di fare un'opera di corretta informazione sulla realtà cubana, sulla sua cultura, la sua arte, eccetera, nel tentativo di favorire maggiore reciproca conoscenza tra il proprio italiano e quello cubano. Un'associazione prettamente culturale, quindi, che si occupa di una realtà a cui a nessuno sfugge il carattere particolare della sua rivoluzione. Particolarità che comunque non ha mai impedito e mai dovrà impedire che nell'associazione lavorano e si confrontano uomini e donne provenienti da diverse esperienze e opzioni politiche, accomunate però da un comune ansia sinceramente democratica che appunta le sue radici nella Costituzione e nella Resistenza italiana. Sull'onda di importanti cambiamenti registrati allo scenario internazionale dal 1989 in poi e cambia anche l'obiettivo primario dell'associazione. In questi anni, con la scomparsa dell'Unione Sovietica e dei paesi socialisti, con la quale Cuba aveva l'87% proprio del intercambio commerciale, il popolo cubano ha dovuto sopportare, continua a sopportare, tutta una serie di privazioni, il cosiddetto periodo speciale. Va precisato che queste privazioni, pur tremende, non hanno portato però a tagli nell'assetto sociale del paese e in parte a Cuba nessun ospedale, nessuna scuola è stata chiusa. Rimane quindi l'impegno di una corretta informazione su Cuba, ma anche l'impegno culturale, ma la priorità da noi viene assegnata alla solidarietà. Una solidarietà economica che si differenzia però dalle altre forme di solidarietà, per molte sarebbe meglio dire carità. Non si tratta di inviare alimenti più o meno avariati, o indumenti più o meno congiati, né di andare a costruire ospedali o scuole nell'isolato. Ma visto il risultato sociale raggiunto dal popolo cubano, si tratta di aiutarlo a difendere le sue conquiste sociali e quindi aiutarlo a mantenere aperto le sue scuole e i suoi ospedali. Per meglio raggiungere questi scopi, la nostra associazione nel 1997 ha dato avvio alla costruzione di gemellaggi tra i circoli di ogni regione italiana e una provincia cubana. I circoli della Lombardia sono gemellati con la provincia di Asturias, a circa 800 km da Lavagna. È lì che insieme agli altri circoli della Lombardia inviamo il grosso dei nostri aiuti, con l'obiettivo di far sentire concretamente ai cubani l'amicizia e la solidarietà degli italiani. Tutti gli anni la nostra associazione organizza impiegati di lavoro volontario e quella della Lombardia porta il nome di Giovanni Arrizzone, un giovane studente di medicina ucciso nel 1962 per una manifestazione a sostegno di Cuba. I partecipanti si pagano il viaggio, vitto e alloggio ed eseguono lavori di riparazione e manutenzione in ospedale, scuole e centri assistenziali. Come vedete, cari amici e compagni, ho cercato, anche se brevemente, di far conoscere il ruolo e il modo di operare della nostra associazione. Ma oggi il nostro impegno principale è quello di contrastare e controbattere una pesante campagna di diffamatoria e di disinformazione contro di Cuba. Gli Stati Uniti stanno investendo milioni di dollari per la propaganda anticastrista in Europa. 140 milioni stanziati da Bush nel 2008 e anche nel 2009. Con Obama, malgrado la crisi economica, stanziati 55 milioni per la stessa data. Ci domandiamo perché. A cosa si pensa che servono questi soldi? Se non ammontati in quella società già per il terrorismo che viene dalla Florida, una strategia di pensione e finanziare un'informazione domesticata. Perché ci domandiamo? Perché tanta rabbia contro Cuba? Forse perché Cuba è un cattivo esempio per il paese del terzo mondo? Infastidisce con un paese del terzo mondo, con poche risorse strategiche, dimostra che si può lottare per il benessere del suo popolo? O che, come cito un cartello mai smentito, che dà il benvenuto ai viaggiatori in arrivo all'aeroporto di La Habana, c'è scritto in grande quel cartello, questa notte 200 milioni di bambini dormiranno per le strade del pianeta, nessuno di loro è un cubano. O che accumula i sistemi di educazione e di salute funziona meglio che molti paesi sviluppati, oppure perché la mortalità infantile a Cuba oggi è 5,8 per mille, nel 1960 era 37,3 per mille, che la colloca al secondo posto nel continente americano superato soltanto dal Canada, o che abbia il maggior numero di medici pro capite al mondo. O infastidisce che l'unico paese al mondo che esporta i propri medici nelle zone più umide dei paesi più poveri dell'America Latina e senza guadagnare un centesimo. Quante volte avete letto che il personale sanitario cubano, più di 400 tra medici e paramedici, ci trovava da Haiti per contribuire al salute del popolo prima del terremoto e che dopo il sisma è stato raddoppiato? Tanto. O infastidisce l'aver raggiunto i soli 50 anni obiettivi sociale, culturale e politico della maggioranza dei paesi del terzo mondo, può malapena tentare di sognare. E tutto questo nonostante un blocco commerciale più lungo che una potenza ha imposto in tutta la storia dell'umanità. Io taglio, compagni, dicendo soltanto che potete constatare che senza la nostra modesta presenza il problema di Cuba sarebbe uno da tanti problemi che il momento politico e democratico di sinistra affronterebbe soltanto di fronte a grandi fatti episodici per scuotere il pubblico. Noi vogliamo, la nostra associazione si batte, vuole essere di stimolo continuo, permanente, ponendo il problema di Cuba in ogni momento e in ogni distanza. Anche per questo ringraziamo l'ambito cominciato di Coppa per averci dato questa opportunità. Buon lavoro, amici e compagni, auguri sinceri che si possa contrastare e controbattere con l'ottanto di sinistra storico che sta investendo la società italiana. Io però qui vorrei ricordare soltanto un'altra cosa, un certo intervento. Come Associazione Italia Cuba, come ARPI, e anche con Svizzera Pubblica stiamo organizzando un agente, no, partendo dall'inizio che diceva l'associazione si ispira all'ideale resistenza della Nazione Cubana, un agente in un punto storico, un punto simbolo che è della resistenza italiana, cioè una visita al Museo Centro a Reggio Emilia. L'abbiamo organizzato per il 3 di aprile, l'organizzazione è già in atto. Noi già ci troviamo con una richiesta massiccia, forte, di richieste di adesione di appartenenza. Parlavo prima con il presidente dell'associazione con Bellizzi, chiedendoci anche quanti posti per l'APE. Abbiamo bloccato 25 posti per l'APE che vuole partecipare. Il costo complessivo è 25 euro. Si parte alle 7 di mattina, si va a Benjamino, si porta una corona di fiori al monumento che ricorda il libro dei ricerchi, dopo di questo si visita il museo, poi si torna verso parte, si va a mangiare, poi si visita anche un servizio con salute eccetera, e poi si torna, si prevede per ritornare intorno alle 21:30 di sera. Questo è il tema dell'organizzazione, i posti sono limitati, cioè diciamo 25 posti, chi è che è interessato va a chiedere subito proprio di iscriversi, perché ripeto sono 3 punti che hanno organizzato, non qualcosa di la richiesta è talmente forte, vogliono dare un punto, la seconda verso il mezzo, anche di genere possiamo fare già a questo punto. Grazie. Segretario del PRC Sutino, consigliere comunale, da 3 minuti perché non vediamo la luce. Buongiorno a tutti. L'unico consigliere comunale che ho fatto. Saluto della federazione della sinistra, che è nata con il contributo di Federazione Comunista e con il contributo di Comunisti Italiani. Io intanto cercherò di essere breve e sensato. Allora, la relazione di Guglielmo mi trovo veramente d'accordo su tutte le cose che ha portato, che ha analizzato, eccetera, compresa la questione delle targhe. Per esempio, poi qui in questo quartiere è il quartiere di Alfonso Lissi, il partigiano ucciso, eccetera. Abbiamo una targa al cimitero di Reggio e quell'iniziativa che dicevo Guglielmo può essere una di queste, un'altra è la questione dalla targa dei deportati che c'è al cimitero monumentale, che siamo andati a visitare recentemente in buono stato, dei deportati da Laticosa, che anche se non c'è più Laticosa, ma dobbiamo sempre tenere presente questo. Ecco, in sostanza io volevo dare un contributo in questo senso, senza di fuori dei schemi. Si celebra i 150 anni dell'Unità d'Italia quest'anno. Io credo dobbiamo le retoriche cercare di sfumarle e far emergere più le cose concrete e ideali. Io credo che i finanziamenti che arriveranno a Cancom devono riguardare anche la lotta di resistenza, non solo Garibaldi e quant'altro. Ecco, e penso che ancora oggi nessuno ha messo in campo il fatto di scrivere all'interno delle varie iniziative quello di rendere più decoroso il monumento della resistenza europea di Giardino Lago. Molto schematico proprio per dire che i valori della resistenza si stanno un po' sfumando in una situazione difficile che stiamo vivendo tutti. Vanno un po' sfumando, il compito nostro è quello di renderli più vivi, perché la resistenza, la Costituzione che è nata con la lotta di resistenza, io credo che è attuale, è attualissima, anzi la questione del lavoro è primaria. Non solo i giovani precari, ma anche gli immigrati in Italia soffrono una situazione difficilissima e non trovano una sponda politica, un blocco sociale che li difenda. Noi dobbiamo, anche noi, io parlo anche noi perché sono scritto anche all'AMBI tra le altre cose, anche noi dobbiamo dare un contributo in questo senso. E io credo che noi dobbiamo far sì che non è che diventi tutto uguale. C'è un qualcosa, ci sono delle diversità. Noi ultimamente abbiamo assistito, lo dicevo ieri nella relazione, tentando di fare dei morti della resistenza e quelli dei repubblichini, la stessa cosa. No, non è così, noi non possiamo accettare questa cosa. Noi dobbiamo fare un po' come fa l'associazione antimafia a Palermo. Ha rifiutato l'adesione di Schifani, dalla seconda carica dello Stato, ha rifiutato questo. Io credo che dobbiamo mantenere i valori forti, dobbiamo mantenere le posizioni per cui questo paese era nato in una certa maniera e sta andando alla deriva. Dobbiamo far rinascere quelli che sono i nostri valori che Guglielmo affermava prima qui. Proprio per questo noi abbiamo fatto una manifestazione quando c'era Dell'Utri qui a Coma a Parolario, e qui abbiamo avuto un po' di tentennamenti, ma ve lo devo dire, perché sono stato uno di quelli che ha spinto un po' di più, e poi alla fine veramente avevo un po' di timore anch'io quando abbiamo organizzato quella manifestazione contro Dell'Utri. Ma perché? Non perché non si voleva lasciare parlare, perché con i soldi pubblici dell'amministrazione comunale del comune di Como e della provincia di Como non è possibile far parlare uno che viene lì a falsificare la storia e riabilitare Mussolini, la stessa cosa uno che è condannato in secondo grado. Questo non era opportuno e abbiamo fatto bene, e lì ci sono stati tanti giorni fa. Una maniera spontanea è stata una cosa senza sotto nessuna bandiera, ognuno si è sentito di voler partecipare, e io di questo ne sono molto orgoglioso, di quelle che hanno fatto. L'ultima cosa, guardate, dicevo no alla rassegnazione, non allo stato quo. Termino su questa questione. C'è stata una lotta dei lavoratori della Calindustria negli ultimi tempi, un'azienda, una fondazione, sarebbe le case di riposo, sono tre case di riposo, dove ci sono i nostri anziani, voglio dire, è un'istituzione dove i lavoratori e le lavoratrici si sono ribellati a un atteggiamento di sopraffatto, a un atteggiamento di precariato, e un modo per far sì che diventasse profitto quelle che invece deve essere una questione di un lavoro dignitoso. Bene, le lavoratrici della Calindustria non si sono rassegnate, hanno fatto una lotta mesi e mesi. Alla fine, con sorriso, con la lotta e con la loro resistenza, hanno sconfitto questi incapaci che gestiscono la Calindustria e questi lottizzati. Ecco perché io dico auguri ampi, saremo sempre a vostro fianco. Bravo. Ringrazio consigliere Supino, che oltretutto per queste sue battaglie si è beccato anche una denuncia da parte della magistratura, però non ho mai assunto atteggiamenti come quello di Berlusconi, si è sempre detto rispettoso di quello che fa la magistratura, poi sottovoce mai contro il giudice. Proietto, che farà ora una breve relazione di carattere amministrativo, sarà molto breve perché i soldi sono anche pochi. Semmai chiederemo aiuto agli svizzeri, però. No, sarò breve perché alcuni punti sono già stati toccati dal presidente. Era la tua relazione. Allora, diciamo che, così come ha detto lui, noi abbiamo cominciato da qualche a organizzare un po' il lavoro nell'ANPI, un lavoro che si faceva molto egregiamente con l'ANPI Perugino. Venuto a mancare lui, abbiamo avuto questo vuoto all'interno dell'associazione che stiamo riprendendo. E lo riprendiamo proprio perché crediamo che sia necessario essere lì per tenere i contatti con gli iscritti, che non basta una segreteria telefonica, ma anche con il territorio che stiamo cercando di ampliare sempre più con nuove sezioni. Citava che il precedente congresso facevamo solamente un congresso di sezione, oggi i congressi di sezione possono essere già di più, e di più saranno nel prossimo futuro, perché Mariano Comense è già partita con le schede per le iscrizioni all'ANPI, che allargheremo al Canturino necessariamente, poi ragioneremo con loro se è possibile fare l'allargamento anche al Canturino. Erba, a chi chiesto che ci sia una nostra organizzazione anche su quel territorio. È nata la sezione Estlago, che abbiamo intitolato a un partigiano bellagino, a Gandola. È stata citata l'Ugiat, la sezione di Ugiat, dove tra l'altro sono tutti giovani. Io posso dire, siccome appartengo anche alla sezione Estlago, cioè della Bledio Bellagio, che anche noi abbiamo moltissimi giovani. Oggi mi sono stati consegnati 10 tagliandi di 10 giovani che hanno aderito alla. E questa è una grande cosa. Perché vuol dire che anche la nostra associazione ha un futuro, che non è una cosa da poco. Devo purtroppo dire però alcune cose che nelle sezioni dobbiamo. No, purtroppo no, devo comunque dire che ci sono delle cose a cui bisogna fissare delle regole un po' di lavoro anche per il futuro. Noi abbiamo il tesseramento che va a rilento nel corso dell'anno. Riusciamo ad ottenere i taglianti degli iscritti solo a fine anno, che non è una cosa che possiamo andare avanti, anche perché se vogliamo organizzare il lavoro dobbiamo farlo mano a mano che le teste vengono fatte, vengono consegnate e si porta avanti il lavoro anche di archiviazione e degli iscritti, anche perché questo poi ci darebbe anche un'altra possibilità. Siccome vedo che c'è un turnover fra gli iscritti all'associazione, anche per capire, abbiamo tempo per capire durante l'anno e andare a confrontarci con questi compagni, con questi amici che non rinnovano la testa, perché non rinnovano la testa. Fallo adesso per il 2010, nel 2011 è un po' fuori tempo, per cui chiediamo a tutte le organizzazioni di cominciare a versare le teste fatte già da maggio, giugno, appena pronte, in modo che si abbia tempo di fare il lavoro poi nel comitato provinciale. Altra questione che bisogna affrontare, secondo me siamo un po' bassi con la quota tessera. Secondo il mio ragionamento non è tanto un problema economico, ma è anche un problema di appartenenza. Questa associazione, i 5 euro della tessera, diciamo, a parte che non pagano neanche la spesa della tessera, si può dire, però la tessera costa 3 euro, no? Ma al di là di questo, credo che non stimoli l'iscritto a un senso di appartenenza ad un'associazione che comunque si rifà ai valori dell'antifascismo, è stato detto più volte, e comunque l'associazione che oggi dipende più di tutti dalla Costituzione, perché è nata dalla guerra di liberazione, per cui queste cose qui secondo me faremo poi delle riunioni, faremo poi degli incontri con le varie sezioni per assodare poi per discutere queste cose, perché credo che siano importanti. Non possiamo, Guglielmo prima diceva, ci sono delle tessere che non sono ancora arrivate, in effetti c'è una sezione comunque che le tessere del 2010 non ci vediamo ancora, non sappiamo se sono fatte, se non sono fatte, tutti che sfuggono, tutti che, e non è possibile andare avanti così. Per cui chiediamo a tutti, appena pronte le tessere, dicevo prima quelle dell'Estrago che sono arrivate, ne sono arrivate anche altre, quelle di Ugiate sono già pronte, ci sono altre tessere che sono arrivate e questo ci permette di fare questo lavoro. Le tessere che abbiamo fatto per il 2010, salvo quello che devono essere ancora consegnati, sono 324. Io credo che in una provincia come Como, dove è stata fatta la storia, non dimentichiamo mai quello che i partigiani della 52esima brigata hanno fatto, credo che abbia una potenzialità maggiore di iscrizione all'ANPI. Io per cui invito tutti a chiedere sul territorio maggiori iscrizioni a questa associazione che non si rifà a un partito politico, ma si rifà all'antifascismo. E l'antifascismo in provincia di Como è molto più ampia di quella che purtroppo abbiamo nei nostri numeri. volevo semplicemente dire, scusate, faccio un po' fatica, sto andando a braccio perché ho lasciato a casa gli occhiali per leggere e faccio molta fatica a vedere quello che avevo messo giù. Io credo di aver toccato un po' tutto, gli argomenti, niente, ringrazio, è molto bello vedere qui tante persone, ma fra queste persone, fra questi compagni, questi amici, tantissimi giovani. Io credo che questo ci debba spronare per andare avanti per il futuro. Grazie. Adesso Forni chiamerà tutti i saluti, diciamo, da parte delle associazioni che sono presenti. Se nel frattempo chi vuole intervenire si prenotasse da Deliana, gli ha dato la porta, in modo che abbiamo un elenco almeno di interventi che possiamo distribuire. Posso dire un'altra cosa velocissima? Mi sono dimenticato, prima ho ringraziato molto Antonio e Fiorella per il lavoro che hanno fatto quest'anno, veramente incredibile, però non vorrei dimenticare, me ne ero dimenticato, il lavoro che ha fatto nei 4 anni passati e anche quest'ultimo anno, Leliana. Mi ero proprio dimenticato. E adesso la pensiamo con il senatore. Caruana, rappresentante della Coop, delle soci Coop, movimento cooperativistico. Io porto un saluto, sarò molto breve, porto il saluto della sezione soci del comitato soci Coop di Lombardia di Como. Cosa dire? Sono tante le cose che uniscono il movimento della cooperazione a Ampi, alla resistenza. Sono tante le iniziative che ogni anno portiamo anche avanti. Io penso che anche quest'anno con l'Ampi saremo a fianco all'Ampi a organizzare il 25 aprile. Come soci Coop quest'anno, visto che, come ha ricordato prima Subino, è 150esimo dell'Unità d'Italia, abbiamo in programma tutta una serie di iniziative per celebrare questa ricorrenza. E nel mese di giugno ci sarà una giornata conclusiva con la partecipazione del presidente del comitato organizzatore per i 150 anni, Giuliano Amato, e la partecipazione del presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi e del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Questo per dire che tra la cooperazione e l'Ampi c'è sempre un intreccio che è indissolubile. Io non vi rubo altro tempo, e a nome sia del comitato che della presidente, che non è potuta essere presente oggi per motivi di salute, vi auguro buon lavoro e buona continuazione. Dell'acqua pubblica che non si avveleneranno, se ne costingo. Sì, buongiorno, sono della segreteria del comitato referendario per l'acqua pubblica e non potevo non venire qui a invitarvi tutti alla partecipazione al referendum che, se non ci sono elezioni anticipate, si celebrerà il 15 aprile e il 15 giugno. Perché faccio questo invito? Sempre centrale poco, però in realtà, se ci pensate un attimo, la Repubblica credo no, sia nata da un referendum, no? Ecco, quindi rivalutare anche quello che è lo strumento democratico che è stato conquistato con tanto sacrificio dai nostri padri, da quelli che abbiamo evocato in questa giornata, che è proprio quello dello strumento di democrazia diretta, che è uno strumento più che mai necessario oggi, nel momento in cui i partiti fanno e disfanno quello che gli va. Acqua pubblica vuol dire bene comune, vuol dire qualcosa che non può diventare merce. e siamo tutti chiamati in primo luogo a garantire il quorum. Voi sapete da quanto tempo ormai il referendum è andato deserto. Qua non solo si rischia di perdere la possibilità che l'acqua sia pubblica, ma rimanga pubblica, no? Come è stata conquistata negli anni da dietro, ma il rischio che si corre è quello che addirittura naufraghi definitivamente lo strumento di democrazia diretta. Questa è la qualche idea. Quindi porto il saluto del comitato e grazie. Professor Merazzi, direttore dell'istituto. Un saluto a questo congresso provinciale, questa assise provinciale, saluto dell'istituto. Siamo legati all'ANPI da anni, anche fisicamente siamo nella stessa palazzina. In qualche modo noi aspettiamo l'ANPI, questa è un po' la storia, da un punto di vista anche formale. Siamo ben contenti, soprattutto siamo contenti che ci sia un progredire, un andare avanti. Siamo stati vicini per anni ai compagni dell'ANPI, a Perugino, e era un po'... brutto, anche o deprimente il fatto che sembra ci fosse un isolamento un po' intorno a questa associazione. Credo che la nuova configurazione, le energie che sono state profuse dai compagni stiano cominciando a dare i loro risultati. La sala di oggi ne è l'esempio. Mi verrebbe quasi voglia di dire che fra un po' sarà l'istituto che avrà bisogno di un aiuto da parte dell'ANPI, anche perché forse non è una proposta tanto sbagliata. I documenti della lotta partigiana, i documenti personali, le biografie, le schede sono presso di noi, abbiamo tantissimo materiale e avremo anche bisogno di aiuti anche per continuare quel lavoro di sistemazione che è stato fatto in questi oltre 30 anni fondamentalmente con spirito volontaristico. Quindi benvengano nuove risorse, nuove energie, nuove sollecitazioni. È chiaro che anche l'istituto sono due cose diverse e questo fa parte anche del dibattito dentro l'istituto. Dobbiamo cercare in qualche modo di mantenere fede a quelle che sono le nostre caratteristiche principali. Però questo non vuol dire che come dire, i campi non si tocchino, che non ci sia interdipendenza tra i due campi di lavoro. E lo studio comunque, lo studio dei documenti, la sistemazione dei documenti, credo comunque che sia un aspetto importante anche della vita di un'associazione appunto come la vostra, come la nostra. Noi ieri sera abbiamo presentato una nuova pubblicazione, L'Assassina, oltre 400 pagine di lavoro di ricerca durato 2 anni sulla resistenza e sui caduti in quella zona, una volta era la provincia di Gogo, e che comunque anche all'interno della storia della resistenza comasca assume un aspetto molto importante. In questi anni abbiamo presentato anche le ultime altre pubblicazioni che riguardano, le ultime ricerche che riguardano la storia della resistenza, l'Erbese, il Bande ancora nelle Chiese. Insomma, il nostro lavoro prosegue, come prosegue anche il lavoro di quella che è l'altra parte di istituto, che è la sezione Scavenite, che si è dedicata a quanti furono deportati in Germania. Oggi, per esempio, stamattina, siamo arrivati adesso, no, perché stamattina era la priodata, era inaugurare una mostra sui deportati per lavoro coatto in Germania, lo chiamiamo gli altri resistenti, non li abbiamo chiamati soltanto noi, li abbiamo chiamati anche Alessandro Natta, ha definito questa l'altra resistenza, un'altra forza, una forza di resistenza. Mostra inaugurata stamattina in collaborazione col Comune e l'ANPI di Vaprio d'Alba. Questa è finita, stessa mostra era una settimana fa Cesano Boscone, sempre provincia di Milano, anche lì il comune Ampi. È un po' di anni che stiamo lavorando, negli ultimi anni stiamo lavorando anche con gli Ampi in giro. Peraltro noi abbiamo fatto la proposta ai compagni dell'Ampi, finito l'incontro stamattina, qui c'era anche un testimone, c'era, sì, c'era l'autorità, la sala era anche piena, c'era un certo interesse, siccome parlavano di prospettive, facciamo presente appunto che oggi c'era questa assise provinciale e abbiamo rinnovato quella che è un po' una proposta che andiamo a fare, ve lo diciamo perché la stiamo facendo da alcuni anni, è quello che quando andiamo anche fuori provincia proponiamo comunque alle associazioni locali che se vogliono possono fare quella che è la gita, come adesso qui sta Russolillo proponeva Museo Cervi, qui siamo andati più o meno tutti noi, fra le altre mete, voglio dire, di questo che non è semplice turismo, ma è come dire, non è semplice passatempo, ma è anche modo di arricchimento personale, noi proponiamo anche il Comasco. Il Comasco, ricordiamo, ha un monumento alla resistenza europea, unico monumento alla resistenza europea su tutto il territorio italiano, credo europeo in generale, è un monumento importante. E abbiamo un museo in Alto Lago, in via di sistemazione, ancora visitabile in qualche modo, ci sono dei luoghi assolutamente interessanti. Insomma, noi è qualche anno che riceviamo, per esempio, delegazioni dell'Ampi del Comune che viene a Como a visitare, siamo noi che seguiamo un po', li accompagniamo all'interno di queste visite. Stamattina abbiamo proposto anche a quelli di Vaprio d'Adda, è una cosa che facciamo, ma io credo che è qualcosa su cui possiamo riflettere anche tutti assieme, chi mi sa bene, tutte le volte lo coinvolgiamo in queste iniziative. Sono dei passaggi importanti rispetto al discorso del target che si faceva prima. Io ricordo che qualche anno fa si cominciò a parlare anche, e forse questa potrebbe essere l'occasione di collocare presso il Monumento alla Resistenza Europea una lapide che ricordi proprio i deportati per lavoro 4, gli schiavi di Hitler. Al Monumento alla Resistenza Europea sono ricordati i resistenti europei, ci sono le pietre principali KZ, i principali lager tedeschi di annientamento. Qualche anno fa abbiamo proposto di mettere anche una targa, è un'operazione che non dovrebbe avere ostacoli, si tratta soltanto che ci mettiamo, cerchiamo di portare a casa questo che è un risultato. Io credo che sia anche legittimo, perché quello che ha detto Claudio Fontana, il fatto che riportare agli occhi dell'attenzione pubblica, anche nazionale, la questione degli schiavi di Hitler come aspetto altro della resistenza, per allargarne il significato, è qualcosa che in qualche modo a Como ha avuto un suo fulcro e un suo motore veramente importante. Non lo diciamo soltanto noi, continuiamo a dircelo e mi permetto di ricordarlo. Quindi è perfettamente legittimo. L'ultimo aspetto, sempre per parlare di resistenza diffusa, ormai anche la storiografia, io credo che sia necessario anche relativamente associazioni come l'ANPI prendere piena coscienza, ma io non ho dubbi di questo, che l'idea di una resistenza che non è soltanto militare, che è composta da tanti soggetti, e uno degli argomenti principali del nostro territorio, qualcosa che dà un'ulteriore luce, un ulteriore sviluppo al concetto di una resistenza civile molto ampia, molto, molto più ampia, e non quella semplicemente dai numeri dei partigiani o dei patrioti o dei benemeriti di cui abbiamo le schede, è tutto il discorso sugli aiuti. Aiuti a chi fuggiva, aiuti agli espatri, aiuti a chi si nascondeva. In questo la provincia di Como, proprio per la vicinanza con la Svizzera, eccelse in quegli anni, e noi crediamo che anche tutti questi aspetti di resistenza civile vadano valorizzati. Questo è un compito che come storici, ricercatori, come istituti, come istituto di Como in particolare, cerchiamo di fare. Io credo che su questo terreno troveremo senz'altro modo di lavorare, continuare questo lavoro di crescita civile comune che ci distingue e che ci tiene assieme. Basta, io credo di aver finito, complimenti a tutti e siamo. Grazie al professor Merazzi. che rappresenta l'Istituto di Storia Contemporanea, che sta svolgendo un'azione molto importante e preziosa per conservare la memoria non solo dei fatti della Resistenza, ma del movimento popolare, dei lavoratori, il movimento di coloro che hanno dato vita nella nostra città, nella nostra provincia, alle istituzioni democratiche. Hanno chiesto di parlare l'onorevole Pini e Dominioni Matteo. Pini, vuoi parlare subito? Allora diamo la parola a Matteo Dominioni. Professore di storia all'Università di Torino, no? Ricercatore, autore di parecchi volumi. Grazie, saluto tutti, siamo molti, bene. Faccio riferimento esclusivamente al documento congressuale, mi ricollego a quanto detto da Guglielmo Imbalduzzi. Allora, certo il nostro documento è completamente condivisibile, contiene dei principi che nessuno può mettere in discussione, e quindi vede il mio appoggio indiscriminato. Diverso quello che riguarda la parte politica contingente, ecco, su questo io ho alcuni dubbi, uno grosso, in merito alla riforma della legge elettorale. Allora io credo che chiedere esclusivamente un cambiamento rispetto al meccanismo della preferenza sia una battaglia, oltre che di retroguardia, credo sia funzionale a una parte politica del nostro paese che non mi rappresenta e che rappresenta una parte veramente minoritaria. Mi spiego, il problema di questo sistema politico, la sua degenerazione, non dipende dal fatto che io possa scegliere tra una soubrette o un'altra soubrette. Il problema riguarda il fatto che noi abbiamo migliaia e migliaia di concittadini che non sono rappresentati. Il problema, questo però viene dopo, è ancora prima, la rinuncia a un sistema di rappresentanza in favore di un sistema che permette la governabilità. E qui mi rifaccio a referendum sul maggioritario, scusate se la prendo alla lontana, ma il sistema nostro è collassato e degenerato in quel momento. Il momento in cui le regole diventano diverse, o si prende tutto o non si conta nulla. Questa è diventata la nostra democrazia. C'è qui un compagno con cui parecchi anni fa, lui aveva qualche capello in meno, io inizio ad avere i bianchi, si tacchinava in difesa del proporzionale. Pochi difesero quella politica ed era già tutto sulla carta, era tutto già segnato. Io all'epoca facevo la quinta superiore, ne studiavo quelle cose, poi le ho studiate anche meglio dopo, però ci ricordiamo il discorso di Stradella, De Pretis, il trasformismo. A questo noi siamo oggi, al trasformismo. E a cosa ha portato il trasformismo? A una degenerazione della sinistra che è diventata destra, alla svolta autoritaria di fine secolo. Quello portò al trasformismo. E mentre nei nostri palazzi si facevano i festini e si intraprendevano le guerre coloniali, nel nostro paese la gente aveva fame e prendeva le legnate come oggi. Questo era il sistema politico dell'Italia post-unitaria. Allora qui mi ricollego, scusate, questa è la mia storia, ma 150 anni di storia io non li vedo in modo retorico, li vedo in un certo modo. La sinistra storica, la destra storica, il trasformismo, cosa generò? Crispi, e in mezzo a Crispi ci fu una svolta autoritaria, ma non solo, la gente nelle piazze prendeva le mazzate e ci si arricchiva, no? Giolitti, lo scandalo della Banca Romana, ecco un altro personaggio, non era un sincero democratico, certo ha importato delle riforme, ma anche Giolitti in una fase della sua storia politica non fu quello che fu in un secondo momento. Quindi il trasformismo, Crispi, mettiamoci anche Giolitti, e poi arriviamo a Mussolini, 20 anni, Facciamo un passo più avanti, oggigiorno, 15 17, anni. 17 di Berlusconi. 17 di Berlusconi, ci mettiamo alcune pagine oscure del nostro paese degli anni 50 e 60. Ecco, 150 anni di questo paese non li possiamo celebrare come viene fatto in televisione, e noi abbiamo probabilmente dei problemi storici atavici di una nostra classe dirigente a cui oggi abbiamo delegato tutto e non possiamo più dire nulla. Questo è il passo indietro che ho fatto, ne faccio un altro. Migliaia di italiani che non sono rappresentati perché qualcuno ha pensato che si può parlare solo se si ha almeno il 4%, se no si deve stare zitti. E questo è passato alle politiche. Ma ecco, per governare tutto o prendo o non ho nulla, lo devo fare dappertutto. E allora, ecco, in 448, in corner, prima delle elezioni europee, ci si è messi d'accordo per far fuori una parte pensante del nostro paese, 4% anche alle europee. Grazie a chi ha deciso questo, e non sono certamente i fascisti, non sono certamente i camorristi che governano buona parte del paese, eh? Maggioritario, blocco del 4%, non era prevista dalla nostra carta costituzionale, che era per una rappresentatività di tutti. Perché siamo messi così male? Perché probabilmente nella maggioranza qui dentro noi non siamo rappresentati, anche se abbiamo portato un, anche se abbiamo votato un partito che magari qualcuno l'ha messo dentro, ma quando ci si entra in quelle stanze del potere di oggi si è trasformisti. Non penso a ballerini eccetera, penso a un politico integerrimo che però non appartiene a quella classe dirigente che, per quanto possa vedermi distante come concezione politica dalla classe dirigente di un'epoca passata, che rappresentava anche le diversità. Quindi io credo che l'ANPI si debba fare portavoce di un'analisi ben profonda della nostra società. Amici miei, io vi ho ricordato brevissimamente 150 anni, calcolate voi quali sono le pagine felici del nostro paese. Il centro-sinistra, certo, io non ne vedo altre. Democratiche, perché è ovvio che il movimento di popolo della resistenza, d'accordo? Un altro passaggio, relativamente al razzismo e alla xenofobia, sono state richiamate le leggi razziali. Ma da oggi, da un po' di tempo a questa parte, noi nelle nostre aule giudiziarie dovremmo scrivere: la legge è uguale per tutti i cittadini italiani. Perché se io scippo una vecchietta vengo condannato per uno scippo, se sono un clandestino vengo condannato per uno scippo, ma anche per qualcosa di più, perché sono diverso. E quindi in questo paese ci sono due status al momento: ci sono quelli che hanno certe garanzie e altri che per legge non ne hanno. Attenzione, perché questo implica una giustizia diversa e degli strumenti, diciamo, penali diversi. I centri di permanenza per gli immigrati, che qualcuno ha chiamato lager, e certo che è stato in un lager rabbrividisce questo raffronto, ma sono dei centri dove i civili non possono entrare, io cittadino italiano non posso entrare a vedere, possono entrare i militari, i rappresentanti della Croce Rossa, i deputati, prendi un permesso. E allora, se ci sono dei luoghi off limits, i muri li dobbiamo battere, perché non vorrei che fra 40 anni mio figlio mi dicesse: ma tu dove eri, non hai visto? Sì, ho visto, c'ero, però sai come funziona, tante volte nella storia conviene farsi da parte. Ecco perché io invito l'ANPI a questo punto, in maniera proprio formale chiedo che al Congresso Nazionale questa mia proposta venga ripresa, un referendum contro la legge Bossi, fine. Questo per quale motivo? Perché nessun partito prenderebbe un'iniziativa di questo tipo, perché è una partita a perdere. Noi faremo un referendum per perdere, è chiaro, ma intanto ci proviamo. Nessun partito farebbe un referendum per perdere, almeno i partiti di oggi. Proviamoci, lo facciamo, apriamo il dibattito, dobbiamo in un qualche modo riprendere i valori della resistenza, che erano quelli di dare la voce a tutti. Noi oggi abbiamo superato il limite. Sono decine di migliaia di persone nel nostro paese che non hanno i nostri diritti e di conseguenza possono essere trattati come schiavi. Io chiedo all'ANPI ufficialmente che si faccia promotrice di una battaglia civile, minoritaria, ma speriamo che possa dare i suoi frutti. Grazie. Grazie all'amico professor Tomignoni. Parola all'onorevole Pini. Vuoi parlare da lì, Enzo? Questa qui? No, no, vado in piedi, la faccia ancora. Dominione è molto stimolante, credo che abbia dato spunto alle conclusioni. Io voglio dire solo questo. Innanzitutto ringraziare chi ha tenuto vivo l'ANPI nella nostra provincia in questi anni. Dobbiamo ringraziarli perché senza di loro evidentemente, non lo so, l'ANPI c'è. Oggi saremo ancora qui a fare questo congresso. Dopo la morte di Gabriele Invernizzi, il figlio ne ha raccolto l'eredità, l'ha portata avanti. Credo però che siamo arrivati a una svolta. Io devo dire che questo congresso deve rappresentare una sorta di staffetta storica. Cioè si celebra 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Io ne ho 86, devo dire che ne ho passata più della metà. Ma se ci riferiamo ai fatti del 45, ne sono passati 65. Quindi io credo che parlare dell'Unità d'Italia dei 150 anni vanno inclusi chi hanno fatto l'unità storica, i Garibaldi, i Mazzini, questi grandi personaggi, ma va inserita il periodo storico della lotta della resistenza, chi ha rifatto l'unità d'Italia. Perché non dimentichiamoci che la guerra del fascismo e il fascismo in realtà avevano distrutto l'unità d'Italia, avevano distrutta non solo moralmente, idealmente, ma l'avevano distrutta anche geograficamente, perché avevamo la Repubblica Sociale al nord e avevamo la monarchia al sud che se n'era scappata da Roma non assumendosi le proprie gravi responsabilità storiche del fascismo. Devo dire che allora dobbiamo inserire questo, ma io voglio dire staffetta storica da un punto di vista delle generazioni. Le generazioni della resistenza ormai superstiti non sono rimasti molti. La carta d'identità è pesante come la mia, ma molte carte d'identità appartengono ai fu. Noi dobbiamo fare sì che l'ANPI sia soprattutto custode e difesa della memoria, che in realtà vediamo come sia manipolata, in realtà cambiata. Non ci sono solo i fatti più vergognosi, quelli di mettere sullo stesso piano chi combatteva per la libertà, la democrazia, la dignità del nostro paese agli occhi del mondo e chi dall'altra parte, anche chi in buona fede per un malinteso senso della patria cadeva dalla parte dell'oppressore, del razzismo, dell'ignominia, dello stato etico del nazismo. E fa vergogna oggi il pensare che si è costretti non a esprimere l'atto di pietà. L'atto di pietà si esprime nei confronti di ogni morto, si esprime anche in qualche ragazzo della mia generazione del 25 messo di fronte alla scelta tragica o di qui o di là. E alcuni hanno scelto di là per un malinteso senso della patria, c'è chi è diventato torturatore e doveva pagare di più di quello che ha pagato di fronte alle sue responsabilità storiche anche da un punto di vista penale. E c'è chi invece ha fatto la scelta di battersi dalla parte della libertà, della democrazia. E a parte questi elementi, oggi il discorso è quello di una staffetta delle generazioni. Spetta alle nuove generazioni prendere in mano questo strumento che è l'ANPI, di custodia della memoria e delle verità storiche, ma da una verità storica in cui non bisogna aver paura, perché la lotta di resistenza è stata grande luce ma anche ombre, e a 65 anni di distanza dobbiamo anche avere il coraggio di affrontare alcuni momenti di questo tipo, se no non diamo sostanza alla luce della storia di che cosa ha rappresentato. E ha ragione chi ha detto la resistenza è fatto un fatto di popolo. Ci sono stati i più numerosi, i più combattivi, le brigate Garibaldi, poi le brigate Matteotti, ma poi le brigate di ogni momento politico, persino dei monarchici che avevano capito le responsabilità della monarchia. C'è stata una parte dell'esercito, ci sono state quelle della resistenza che appare meno, ma sono migliaia e migliaia di militari che erano quelli che avevano giurato fedeltà alla patria, ma sono finiti poi a fare fedeltà nei campi di concentramento tedesco perché erano posti di fronte alla scelta di aderire qui alla Repubblica Sociale, come mio fratello, che sarebbe ritornato in Italia, ma restarono fedeli al loro impegno verso il paese. Ci sono tutti questi fatti storici, ma noi li dobbiamo consegnare ai giovani perché ne facciano una custodia di difesa di questi valori storici, nel senso giusto. Ma dobbiamo consegnare ai giovani, soprattutto attraverso l'ANPI, la costruzione dell'avvenire, basato su quei grandi ideali. E io dico molto spesso ai giovani, lo dico a alcuni che vedo qui con piacere, e mi auguro che diventino sempre più numerosi e che raccolgono anche la loro possibilità e capacità anche di dare un contributo organizzativo e di direzione alla nostra organizzazione provinciale. Bisogna dire ai giovani che il fascismo non è quello che abbiamo conosciuto noi soltanto, quello del ventennio, quello dei fasti del 30, del 35, dell'impero, di queste cose, quello delle vergogne della guerra, quello della tragedia dal 43, dal 45. No, dobbiamo dire ai giovani che in realtà il fascismo è soprattutto un fatto culturale, e oggi viviamo in un'epoca in cui questi disvalori rappresentati dal fascismo sono tutti attuali. Come io la posto qui una proposta, l'odio verso il diverso, il razzismo esasperato, il trionfare sull'egoismo dell'individuo come fa la Lega, in cui la risposta è di alcune proposte anche positive, ma in realtà si poggia solo sull'egoismo dell'individuo nei confronti dell'altro individuo, se non un fascismo nella sua fase potenziale. Che cos'è la vergogna di oggi? E badate, e diventa pericolosa per il nostro paese, ma non tanto solo sul piano politico, sul piano etico, la scomparsa di ogni etica nel compiere la propria milizia politica, il proprio impegno politico. E guardate che il nostro paese sta passando un momento difficile, è uno spartiacque difficile. Se assistiamo alle polemiche di questi giorni, la caduta di ogni etica fa sì che la tragedia maggiore è il grande distacco dalla gente, dalle istituzioni democratiche che sono nate dalla lotta antifascista. La maggior parte della gente non parteggia oggi per un blocco o contro l'altro blocco che si esprimono oggi sulla scena politica. In realtà finisce a dire sono tutti uguali, quello ci va con le minorenni, questi non hanno la capacità di difendere le lotte operaie con l'energia diversa. La realtà è questo fascismo. I sondaggi dicono alla gente io non vado a votare, cioè il trionfo della rassegnazione del cittadino di fronte allo sviluppo democratico del nostro paese. Ecco perché dobbiamo consegnare ai giovani questo, non rassegnazione ma spirito di riscossa del nostro paese, di confronto politico, anche se volete molto teso, molto acceso, ma basato su un'etica, su un'idealità, su, certo sull'etica e l'idealità del 2000, perché non siamo di fronte ai problemi del Novecento, che è stato un secolo estremamente breve, viene chiamato il secolo breve, fatto da due guerre sanguinose per il nostro paese, con milioni di morti e fatte dalla tragedia del nazismo. E guardate che il nazismo va condannato come una delle vergogne peggiori della storia dell'umanità, ma la base del nazismo era la concezione di uno Stato etico che faceva sì che la maggioranza del popolo tedesco ne condivideva quel tipo di etica. Ci sono stati, certo, dei tedeschi si sono sacrificati, anzi la storia non lo dice, lo dice in punta di piedi, e sono stati molto più i tedeschi morti per opposizione al nazismo che i soldati americani, con tutta la riconoscenza che noi dobbiamo avergli per la liberazione dell'Europa. Alla realtà rendiamoci conto che i popoli rischiano anche questo, e quando noi vediamo di questi tempi, di fronte a questo disfacimento etico e morale, la maggior parte della gente che non reagisce e trova anche il modo di giustificare alcuni di questi atteggiamenti, dobbiamo porci la domanda che occorre veramente la parte migliore della società italiana, che devono essere i giovani, non la loro rassegnazione, ma spingerli a un momento di orgoglio, a un momento di dire noi ci siamo conquistati la libertà, ce la siamo riconquistati rischiando per ridare dignità al nostro paese, facendo la Repubblica e dandogli una delle migliori Costituzioni europee. Vi consegniamo idealmente questa staffetta, perché voi ne faceste occasione della vostra vita, della difesa di questi valori, ma soprattutto protagonisti del vostro avvenire, perché nessuno vi regalerà il vostro avvenire che non avete in questi tempi. Ecco perché io dico questo e la finisco, perché il tempo è molto tiranno, dovremmo avere più occasioni di avere incontri di questo tipo, ma dobbiamo avere proprio questa capacità di questa staffetta ideale. Certo, noi non possiamo prescindere dalla politica, ma possiamo prescindere dai partiti. Io devo dire a Dominione, non lo so, la legge elettorale, se come la propone lui, certo per me, anche me, fare riferimento solo alla preferenza della legge mi pare redditivo. Certo dobbiamo cancellare questa vergogna, perché in realtà che cosa abbiamo? Anche qui sottolineiamo pure in un congresso dell'AMPI, noi diciamo che siamo un paese democratico, sì siamo democratici perché siamo qui a fare il nostro congresso, possiamo anche parlare male di Berlusconi, ne parliamo anche male, dobbiamo dire abbiamo sottolineato i 20 anni di fascismo Signori, ma ne sono passati 17 di anni del berlusconismo, e i guasti non sono i guasti della guerra, ma sul piano politico ci possono essere discussioni, sul piano etico-morale non ci devono essere né concessioni né discussioni, perché il danno peggiore fatto dal berlusconismo è quello di avere iniettato nella società italiana questi disvalori che giustificano persino questioni così ignominiose come quelle delle vicende di cronaca o rosa, o non lo so come si possono chiamare queste cose qui. Il danno maggiore è stato questo. Ecco perché io devo dire che questo deve essere l'aspetto soprattutto. Facciamo di questo nostro congresso in una provincia come la nostra, ha ragione, lo faccio anch'io l'ipotesi, c'è anche Ciupino, gliela trasmettiamo anche lui perché si faccia portavoce. Monumento della resistenza storica, è una delle più belle pagine che Coman abbia scritto. L'ha ideato, l'ha realizzato, è l'unico monumento europeo dove lì ci sono quelle scritte che non si leggono più e sono le scritte, guardate, di tutti gli europei, e all'interno di quelle scritte ci sono delle frasi che noi consegniamo ai ragazzi, non posso consegnargli a chi presta fuoco dalla mia generazione, credo che vi sia uno dei più vecchi, io sono del 25, non so quanti ce ne sono altri di questa generazione, fanno 86 anni, sono tanti. Bene, lì ci sono delle frasi che vi consegno, ragazzi. Ecco, ho già detto qualche altra volta, quella di Fucci, ragazzo come voi, forse più giovane anche di voi, di 20 anni, venne impiccato dai tedeschi, ma non con la corda, perché era troppo nostrano, ma con un gancio da macellaio venne impiccato, e la sera prima di essere massacrato in quel modo così barbaro come una bestia qualunque, lasciò un biglietto che noi consegniamo alle nuove generazioni che sono qui al congresso, alle generazioni italiane. Uomini, vi amavo, vigilate, dovete vigilare, perché questi momenti sono... scrisse dal nostro Wecker, anche lui disse buon senso anche qui, ragazzo anche lui di 20 anni, di fronte al plotone di esecuzione, senza sacrificare i suoi 20 anni per la libertà degli altri, disse al plotone di esecuzione: io non ce l'ho con voi, sparate pure, vi perdono perché non sapete quello che fate. Oppure la frase di Peretta, il nostro coetaneo comasco, che scrivendo al buon Giusto Peretta, qui dobbiamo in grazie per aver fondato l'Istituto della Storia Contemporanea, che ha dato poi anche l'ospitalità all'Ampi, perché questo è vero, scritto storicamente, scrisse al figlio dicendo: mi auguro che questa esperienza che io passa non sia inutile, ma sarà inutile se non viene coltivata sul piano dell'educazione e della capacità culturale di difendere queste idee di libertà e di democrazia. Ecco, questo è l'augurio. Io non so se al prossimo congresso c'è ancora, gli faccio le corna, mi auguro che sì. Magari col piede che sto avuto un colpo di gotti in questi giorni, e chiudo con questo aneddoto per rendere meno drammatico il mio intervento, ma ho sentito di farlo così, con molta spontaneità. Non vuole essere uno specie di testamento morale. Bravo! Stava parlando uno dei padri della patria, Orlando, in Parlamento un giorno, e faceva un discorso con la retorica dei tempi, e Sforza, che era ministro degli esteri, seduto sui banchi del governo con un suo collega di vicina, Orlando aveva quasi 90 anni, forse poco la mia età, qualcuno di più. E gli disse, si capisce che sta invecchiando. E Orlando colse la cosa e dice, sì, stiamo invecchiando tutti e due, caro Sforza. La differenza tra me e te è che io comincio dai piedi. Io non ho cominciato dai piedi anch'io, e mi ho aperto quindi. Sono il pastore della chiesa valdese di Como, mi sto occupando della storia della, non della resistenza, ma di personaggi resistenti, rimasti resistenti anche in Germania al nazismo, e quando sono arrivato a Como ho visto nel lungo elenco dei pastori che hanno svolto il loro ministero qua tra di voi, tra il 37 e il 48, la figura del pastore Carlo Lupo, che ebbe un aiutante per il lavoro pastorale che si chiamava Silvio Baridon. Ecco, noi la pausa lì ci ha spaventato. Certo. Quindi anche il pastore Lupo è stato resistente, non è stato nella resistenza, e quindi una delle figure che vogliamo ricordare prossimamente in quest'anno ancora con un libro, e credo che appunto forse è giusto ricordare che, come meglio voi sapete, sia dalla parte dei tedeschi che dalla parte anche degli italiani e delle italiane, non c'è stata purtroppo una resistenza delle chiese, parlando delle istituzioni, non c'è stata resistenza delle chiese, ma c'è stata resistenza nelle chiese, dove individualmente qualcuno si è preso tutta la responsabilità ad agire. Ecco, noi dobbiamo ricordare come chiese, credo, anche appunto questo. Grazie. Sono altri che vogliono intervenire? Ecco, io vorrei dire due parole, poi concluderemo con la conclusione della, con la conclusione del presidente regionale, l'onorevole Pizzinato. Si sente? Io volevo dire due parole. Il compito dell'arte indubbiamente è quello di conservare e difendere la memoria della resistenza, soprattutto nei riguardi di coloro che mettono tutto in discussione e vogliono dare alla resistenza l'immagine più negativa possibile. Credo che tutti abbiano letto alcuni libri che sono stati scritti in questo periodo, il cui scopo non è quello di cercare la verità, lo scopo è quello di distruggere un sentimento popolare che lega strettamente il popolo italiano al movimento della resistenza. Questo è lo scopo di queste pubblicazioni. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. E per questo noi, insieme all'Istituto di Storia, cerchiamo di valorizzare tutte le esperienze che ci sono state nella nostra provincia. Sono state pubblicate delle opere importanti proprio per mettere in luce l'apporto che hanno dato i personaggi di qualsiasi orientamento politico. Ci sono comunisti, ci sono socialisti, ci sono cattolici, ci sono sacerdoti, ci sono anche suore. L'ultimo libro che ha scritto il professor Vecchio, Comasco, per l'Università di Parma, è intitolato Le suore nella resistenza. È un libro interessantissimo. Stiamo quasi finendo. Per esempio mette in luce tutta l'azione che è stata fatta la suora Enrichetta nel carcere di San Vittore, proprio nel periodo della resistenza. Questo per dire che c'è questa opera precisa, puntuale, per far conoscere ai comaschi e agli italiani qual è stato l'apporto che i resistenti hanno dato. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che dobbiamo fare è combattere le subdole forme di ricostituzione del fascismo in Italia. Guardate che qui a Como, qualche settimana fa, un'associazione che si chiama Milizia ha portato a Como a parlare un fascista delle brigate delle Ordine Nuovo che si chiama Dalle Chiaie nella frazione di Cannago Volta. Altre iniziative questa organizzazione Milizia ha fatto in altre circoscrizioni, in altre parti della città. Per una di queste manifestazioni il comune di Como ha dato il suo patrocinio. Ma è mai possibile? E purtroppo queste cose succedono. Succedono perché c'è questo movimento che fra l'altro è legato e presieduto dal figlio del prorettore dell'Umsubria, quindi è legato all'Università di Como. Non è che abbia fatto molte cose culturali per la città l'Università di Como, però se produce questi esempi cosa ce la teniamo a fare? Terzo, non solo combattere le forme di fascismo, o come diceva molto bene il collega Pigni, combattere una mentalità che è fascista, di fatto. Ma dobbiamo promuovere la conoscenza e l'attuazione della Costituzione, ma anche qui non in teoria, contrastando soprattutto le modifiche di fatto che sono state apportate alla nostra Costituzione. Quando la legge elettorale dice che ogni coalizione presenta un candidato alla presidenza del Consiglio, di fatto provoca una violazione formale della Costituzione, perché la nomina del Presidente del Consiglio è di esclusiva competenza del Presidente della Repubblica. E se i partiti anche della sinistra avessero ostacolato questo tipo di modifica, oggi Berlusconi non potrebbe dire io sono eletto direttamente dal popolo. Non è vero. Nessuno è stato eletto, nessun Presidente del Consiglio può essere eletto direttamente dal popolo. Che poi ci sia una designazione che avviene sulle liste elettorali non ha nessun significato in rapporto alla Costituzione. Ma questo però dal punto di vista politico ha creato un precedente che consente a Berlusconi o al Presidente del Consiglio di vantare la sua elezione diretta, cosa che non è prevista dalla Costituzione. Ma quante altre violazioni della Costituzione sono state fatte? La nomina del Parlamento, fatta direttamente dai segretari dei partiti, che potrebbe essere ovviata anche con l'introduzione delle preferenze, ma non necessariamente. Basterebbe ripristinare il concetto dei collegi elettorali e una quota di proporzionale. Ma perché i padri fondatori della nostra Repubblica hanno previsto il sistema proporzionale? Perché tutti dovevano avere una rappresentanza in Parlamento a seconda della loro forza. Quando la Democrazia Cristiana fece una legge che fu chiamata la legge truffa, che rispetto alla legge attuale è rosa e fiori, perché per avere la maggioranza bisognava raggiungere il 50% per poter avere 51%, adesso col 21% la coalizione che ottiene un voto in più dell'altra ha la maggioranza assoluta del Parlamento. Quindi va riformata la legge elettorale, facciamo bene a chiederlo. Ma la Costituzione la si rispetta anche nell'articolo che dice che l'articolo 1 dice che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro. Noi vediamo che c'è stato per troppi anni un disprezzo per i problemi dei lavoratori, disprezzo che ha portato anche i partiti di sinistra oggi a lodare le modifiche che vengono introdotte nei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori. Nessuno ha espresso dei giudizi. Marchionne è l'innovatore, non è, è intoccabile. Formi lo statuto dei lavoratori, di fatto non esiste più. Comunque, la difesa della Costituzione significa anche difendere il diritto alla salute, che non viene più garantito se vengono tolti i finanziamenti alle strutture pubbliche e date alle strutture private. Difendere il diritto all'istruzione, e l'attuale legge di riforma universitaria non lo difende, significa in tutti i modi difendere soprattutto con le ceti più deboli del nostro paese. Quindi promuovere, far conoscere e attuare soprattutto la Costituzione. Ma la cosa più importante che io vorrei dire è che dobbiamo riuscire a vincere l'indifferenza verso l'immoralità, verso la politica antisociale nel mondo del lavoro e della scuola. Vincere questa indifferenza. Oggi c'è indifferenza. Ma io voglio parlare anche di come. Quando in tutta Italia c'è stato un movimento importante contro la riforma universitaria, avete visto voi una manifestazione di studenti universitari a Como? L'avete vista? La persona che ha avuto più coraggio di tutti è stata la professoressa Viviani, preside della facoltà di giurisprudenza, figlia del senatore Viviani del Partito Socialista Italiano. È stata la persona che ha avuto più il coraggio di dire che quella riforma era contro gli studenti, contro i giovani. Non avete visto la manifestazione di giovani qui a Como? E anche dopo, durante la discussione vivace che c'è stata sui problemi dei rapporti industriali, rapporti all'interno delle fabbriche, avete visto voi qualche movimento qui a Como? Io che sono un ingenuo, appartenendo a una famiglia di operai, perché nella mia famiglia c'erano 6 operai metalmeccanici, tipo 6, ho telefonato, qualcuno lo conosce, ho telefonato alla FIOM e ho detto: mi conoscete? Sì, sì, la conosciamo. Vede che la brutta fama è nota. E ho detto: avete fatto qualche manifestazione? C'è una sottoscrizione da fare a difesa dei lavoratori in questo momento all'interno della Fiat? Eravamo il martedì, le elezioni mi pare venissero fra il giovedì e il venerdì. Dice: sì, sì, forse venerdì arriva un volantino da sottoscrivere. Io non l'ho visto, non ho visto manifestazioni, io non ho rivendicazioni da fare perché non sono metalmeccanico. Nella mia famiglia mi sono salvato perché ero il più gracile di salute, quindi non ho niente da dire. Però questa indifferenza anche a livello locale mi preoccupa. Mi preoccupa il fatto che non c'è reazione neanche alle storture dell'amministrazione comunale, ma un'amministrazione comunale che deturpa il lago, il lungo lago, un'amministrazione comunale che non riesce a risolvere il problema della ticosa, un'amministrazione comunale che non sa dare risposte sull'assistenza sanitaria sul territorio perché tutto è confinato nell'ospedale che non si trova più a Como, un'amministrazione comunale che non dà risposte ai problemi dell'assistenza della casa. Vedete voi una reazione in città, salvo alcuni consiglieri attivi che ci sono, qualche movimento attivo che c'è, ma vedete una reazione? Non si vede niente, o sono io che non ci vedo? Cioè, secondo me la cosa più importante oggi è creare una reazione nell'opinione pubblica anche su quello che avviene oggi in politica a livello nazionale, con i cattivi esempi che ci vengono dall'alto. Vedete voi una reazione nell'opinione pubblica? Vedete voi qualcuno che si muove? Tutti fanno il distinguo, ma sì, la morale privata, la morale pubblica. Forse qualcuno aggiunge: c'è del marcio in Danimarca. E io che ho fatto l'insegnante e dirigente scolastico, ignoro che Monza e Brianza si trovano in Danimarca. Ma vi rendete conto cosa vuol dire che non ci sia reazione nell'opinione pubblica? Per cui io concludo dicendo: secondo me, come ampi, dobbiamo dare vita a una discussione, a un dibattito ampio nel paese, indipendentemente anche dai partiti, perché dobbiamo creare una nuova resistenza. Dell'ANPI non c'entrano i partiti. Sì. Non si offenda. No, no, io non mi offendo. Si nomina sempre la sinistra. Vorrei capire dov'è, ha detto una cosa che e dov'è? La sinistra e la destra, come ormai hanno preso la loro sede in via Sant'Abbondio, che è la stessa via dove c'è il cimitero. A Como, quando si dice andare a Sant'Abbondio, pino. Va bene che tu andrai a quello di civile. Allora, se non c'è nessun altro, darei la parola. Leggo prima i nomi che stai la commissione elettorale, così si riunisce di bella legge, dopo la legge, quando dentro la legge. Allora, una forma, la commissione elettorale e se siete d'accordo su qualcuno, perché ci pare basta che alzi la mano, non ci sono problemi, proposta sarebbe l'Antonio Proietto, l'Eliana Gatti e l'Andrea Baredi. Andrea non è del comitato provinciale, così è una, come dire, un esperto. Se non c'è niente al contrario, nominiamo loro in modo che fai una lista per la città. Allora, tanto è una cosa di nome. Ha chiesto la parola per un breve intervento il professor Luca Michelini. Scusa. Io sono antidemocratico, quindi chiedo che si alzi la mano sulla commissione elettorale. Siete poi d'accordo? Sì. Eletta maggioranza. Hai ragione. Vedi se ci sono contrari. Sono contrari? Si sono astenuti? No. È però che un vecchio comunista dia lezioni di democrazia a un democristiano. Vecchio operaio, vecchio operaio. Andiamo avanti. Michelini. Grazie, mi concesso la parola. Due minuti per dirvi questo. Io oggi mi sono iscritto all'ANPI, diciamo così, per la prima volta. Io non ho fatto il partigiano, quindi ho le carte in regola, diciamo. Grazione e tatis. Come? Grazione e tatis. Dunque, perché ho sentito questa esigenza e perché vi dico una cosa e condivido molto questa, la chiusa di Gomi, cioè una nuova resistenza. Anch'io penso che il momento che stiamo vivendo abbia bisogno di una nuova resistenza. E io ho letto con grandissimo interesse questa nuova apertura dell'ANPI ai giovani, cioè l'ANPI non diventa più un'associazione, passate il termine, trenci, ma diventa un'associazione viva e dinamica. Ora, secondo me questo è un punto fondamentale da capire bene e da interpretare molto bene, perché se l'ANPI vuole essere un'associazione politica e non partitica, e quindi si deve dare degli obiettivi dinamici della società, allora bisogna porsi in termini dinamici i problemi dell'organizzazione e di avere una strategia. Qua si è parlato molto spesso e ricorre spesso questa idea, no? L'opinione pubblica non parla di l'opinione pubblica. Il problema oggi in Italia è che l'opinione pubblica non esiste, perché l'opinione pubblica è un monopolio economico finanziario che sappiamo tutti in mano di chi è. L'opinione pubblica quindi deve essere costruita anzitutto da organizzazioni come l'ANPI. Se esistono libri che parlano, che denigrano la resistenza o che portano avanti un discorso, qualcuno dovrà parlare di questi libri, dovrà recensirli, dovrà stroncarli, dovrà intervenire. Chi è l'opinione pubblica? L'opinione pubblica è questa, cioè questa sala. Quindi io starei molto attento a non interpretare appunto l'ANPI solo come un po' come l'università, no? Deve trasmettere la memoria, d'accordo? Deve trasmettere la memoria. Però bisogna anche fare opinione, e questo deve essere un obiettivo fondamentale. Per fare opinione, per dare spazio ai giovani, poi bisogna darglielo per davvero questo spazio. Quindi deve nascere per davvero un'organizzazione che, io leggendo il libretto che avete distribuito, sono rimasto molto colpito, perché, come dire, porsi oggi il problema dell'antifascismo opporsi oggi il problema politico della difesa della Costituzione ha un sapore quasi rivoluzionario, perché come lei ha chiuso il suo discorso mi ricordano parole che solo 20 anni fa erano considerate pericolose, onorevole Forni, una nuova resistenza e via discorrendo. Allora, secondo me oggi siamo di fronte a un problema molto serio. Le nuove generazioni, di fronte alle parole che non tengono dietro i fatti, si scocciano molto rapidamente. Di fronte a dei proclami, a dei progetti, bisogna essere conseguenti, cioè bisogna portarli avanti, bisogna sapere portarli avanti. E quindi questo è il motivo per cui io mi sono avvicinato, per cui sicuramente come dire, partecipo dei vostri intenti, però è un motivo anche per farvi capire che come dire, siamo su un crinale molto, molto pericoloso, perché Il prossimo passo, appunto, sarà come dire, come sta morendo la nostra democrazia. La nostra democrazia non sta morendo con un colpo di Stato, sta morendo con una serie di piccoli, impercettibili passi che piano piano la sgretolano. L'AMPI può semplicemente morire di morte naturale, semplicemente non muovendosi. Non è che non muovendosi si preserva, non muovendosi scompare. Quindi l'invito che io vi faccio è questo: volete passare il testimone ai giovani, allora dovete farlo per davvero, e quindi bisogna porsi un problema organizzativo, dinamico, politico e non partitico, però bisogna farlo sul serio, a mio giudizio. Io vi racconto quello che mi è successo a me giovedì. Io ho presentato la libreria Feltrinelli per parlare di Como. Io per ventura, diciamo, insegno anche all'università qua a Como, ma non è la mia università. Ho invitato tutti i miei colleghi a venire a una presentazione di un libro che facevo sulle origini fasciste dell'antisemitismo, anni lì. Quando sono arrivato in libreria Feltrinelli, oltre al pubblico, ho trovato 20 poliziotti. Perché 20 poliziotti? Perché mi avevano detto che Forza Nuova a Como voleva fare, esattamente nello stesso momento in cui io facevo questa presentazione del libro, una contromanifestazione. Quindi questo ci dà l'idea che io ho questa idea, diciamo così, martellante, che Como veramente non è la periferia, è al centro di strani fenomeni che abbiamo il compito noi qui ora, come dire, appunto rimboccandoci le mani, di contrastare in maniera dinamica, attiva, non pensando, diciamo così, che l'opinione pubblica esista. L'opinione pubblica si costruisce, lo sanno talmente bene quelli che, diciamo così, ci hanno ridotto in questo stato, che la controllano capillarmente. Perché il libro di Pansa non è un libro qualsiasi, è un libro che è stato sponsorizzato, che ha detto una casa finanziaria, che ha detto una commercializzazione finanziaria, che ha detto un impero, tale per cui si parla del libro di Giampaolo Pansa e non si parla, per esempio, dei libri dell'Istituto di Storia di Como. Non perché esista una pubblica opinione neutrale, ma perché dietro c'è una potenza economica finanziaria spaventosa, c'è un'organizzazione. Grazie. Ilma Conti voglia portare il saluto di Dugo. Per chi non lo sappia, esiste ancora il muricciolo sul lago, è sempre utilizzabile, è tosta questa, per quelli che vanno a pescare, sì. E dai tempi. E abbiamo fatto il nostro congresso, abbiamo avuto il piacere di avere con noi in iscrizione di parecchi giovani che porteranno avanti l'associazione. Il nostro nuovo presidente è il signor Paracchini, presidente, che è figlio di un martire della libertà ucciso sul nostro confine il 25 aprile. Non solo è nipote, perché è nonno, ma è anche figlio del più giovane partigiano d'Italia, che a 14 anni è stato arrestato, portato a Como, alla casa del fascio, per puro caso non è stato torturato, e appena rilasciato non ha fatto nient'altro che salire in montagna sulla formazione partigiana nostra, dove c'era anche il papà. Se ti alzi tutti ti vedono, poi ti insiedi, Portano avanti gli ideali dei loro padri, dei loro nonni, gli stessi ideali che l'AMPE ha sempre custodito e trasmesso. Noi purtroppo viviamo in un periodo in cui è progressivo distante dagli avvenimenti storici che fanno parte della Fondazione Culturale Civile che noi abbiamo avuto. Purtroppo oggi vi è un progressivo degrado dei valori. La nostra democrazia è ferita, i negazionisti e i mistificatori abbondano. Quello che mi preoccupa di più sono, come dicevano prima, gli indifferenti, ai quali la rappresentazione del male sotto passa davanti ai loro occhi come fosse la sessione televisiva matriculata. Occorre risvegliare la coscienza assopita nostra. Il nostro compito è quello di dare rilevanza al contenuto dei resistenti comasti, direi. Ricordare il pluralismo dei vari movimenti politici, ricordiamo Olivelli, Poeta, Severino Rogli, Carotti, Lissi, il professor Bacchi. Ricordiamo a tutti che l'ANPI non è un partito politico, ma è solo la casa di tutti gli antifascisti. Dopo l'8 settembre, tutti gli sbandati hanno cercato di rifugiarsi in montagna, chi dalle altre parti, sono stati aiutati dalla popolazione, sono saliti in montagna, io me lo ricordo benissimo. Tutti questi giovani andavano in montagna digiuni di politica, perché venivamo dalla cultura fascista. Solo in montagna c'erano, assieme al comandante, c'è sempre stato il commissario politico, che secondo le formazioni inquadrava un po' questi giovani veramente digiuni di politica e in crisi di fascismo. C'erano le Garibaldi, comunisti, le Matteotti, socialisti, la Notizia Libertà e delle altre. Comunque, tutti questi giovani che hanno sofferto, sono stati arrestati, messi in prigione, torturati, hanno potuto sopravvivere anche per l'aiuto delle donne, le quali donne, come loro, hanno sofferto perché chi è stato arrestato, torturato e anche messo in prigione e hanno perso anche la vita. Tutte queste persone, uomini e donne, hanno lasciato noi un gioiello grandissimo che è la nostra Costituzione, che cercano in tutti i modi di stravolgerla. Il nostro compito è quello di difenderla. Come c'è il monumento della resistenza europea. A Domo abbiamo il Museo della Resistenza che finalmente, dopo anni che aspettiamo, tra 2 mesi inizieranno i lavori di ristrutturazione. Io saluto voi dicendo cerchiamo di tener vivo il ricordo di quanti ci hanno dato la libertà, perché a me personalmente cadono le braccia. Posso ricordare una cosa? 2 o 3 anni fa sono andata in Germania e sono passata davanti a una piazza grande. Nel centro della piazza c'era un specie di vetro, di plexiglass. Uno sta lì, si affaccia e vede degli scaffali di una biblioteca completamente vuota. Perché ricordano che il ricordo è che in questa piazza sono stati bruciati tutti i libri degli oppositori al regime. E mi sono ricordata, non so in quale paese del Veneto, che hanno già cominciato a togliere dalle biblioteche i libri di Saviano. Speriamo che tra un po' non tolgano qualche altra cosa. Qualcuno della Svizzera, per esempio. Venga qualcuno a dire. Perché voi poi ci avete ospitato, avete invitato molti nostri. Hai salvato la pelle che ti Cari compagni e cari compagni, vi ringrazio per l'invito che abbiamo ricevuto. Io vi porto i saluti del Partito Comunista Ticinese, una sezione del Partito Svizzero del Lavoro, e parlo anche a nome dei qui presenti compagni dell'associazione SOS Razzismo, che è una realtà che si è organizzata da poco, soprattutto in ambito giovanile, intende fare un doppio lavoro: da un lato contrastare il razzismo, come dice il nome, che è un fenomeno che anche nelle nostre latitudini purtroppo sta aumentando, ma ma non si vuole fermare ad un discorso etico antirazzista, ma vuole toccare anche il tema del fascismo. In Svizzera l'abbiamo vissuto diversamente, il fascismo voi l'avete vissuto come forma di governo, però se pensiamo al fatto che i movimenti di estrema destra anche da noi stanno crescendo e soprattutto addirittura a livello nazionale, l'Unione Democratica di Centro, che non è di centro ma è di estrema destra, è diventato il primo partito nazionale, potete capire che anche per noi questa tematica inizia ad assumere un'importanza notevole. Una cosa mi ha colpito da questo congresso, il fatto che abbiate saputo unire non soltanto il discorso della memoria, ma anche le questioni sociali, o se mi permettete un termine molto marxista, di classe, perché si sono parlati dei lavoratori, si è parlato dei diritti, si è parlato della Costituzione, che è una delle più avanzate d'Europa. Bene, io penso che partendo da questi presupposti l'ANPI, e non soltanto l'ANPI, ma io penso anche l'associazione che in qualche modo in Svizzera vuole essere un po' il vostro partner, potrà fare grandi cose, potrà avere un futuro. E aggiungo una cosa e qui concludo, visto che abbiamo anche il coordinatore del sindacato degli studenti. Noi viviamo una situazione nelle scuole un po' strana. Si parla tanto di pluralismo, e a volte il pluralismo però diventa sinonimo quasi di qualunquismo. Questo non deve avvenire. Così come la parola indipendenza non è sinonimo di neutralità. E allora quando io sento dire che uno studente può affermare in una lezione di scienze che per lui esistono le razze umane a livello biologico e il docente gli risponde beh questa è la tua opinione, io mi incazzo, perché non è un'opinione. Il fascismo e il razzismo non sono un'opinione, non vanno accettati, sono un crimine e il crimine va combattuto. Bravo, bravo. Di un partito comunque istituzionale, io mi assumo la responsabilità di impedire le manifestazioni dei gruppi di estrema destra. Non ho problemi a dirlo, perché loro non hanno legittimità democratica, e chi non riconosce la democrazia, la base fondamentale della democrazia, non può avere il diritto di manifestare, e il Partito Comunista nostro sarà sempre lì a bloccarlo, non con la violenza, ma se necessario ci difenderemo. Di poter ulteriormente sviluppare la vostra azione. Io spero che al di là del confine si possa anche prendere esempio da voi, e mi auguro che si possano trovare delle sinergie di collaborazione concrete. Ringrazio. Tanto avere degli amici al di là del confine. Regionale dell'AMPI, onorevole Pizzinato. Io desidero innanzitutto partire da un ringraziamento per essere qui con voi, a concludere la parte di dibattito, perché poi bisogna assumere le decisioni in modo democratico. Questo nostro congresso provinciale, in preparazione del 15° congresso nazionale che si svolgerà il 24, dal 24 al 27 marzo prossimo a Torino. Questo è il secondo congresso provinciale dei 12 che abbiamo programmato, e come ricordava Guglielmo all'inizio della sua relazione, congresso che per la prima volta negli ultimi anni è stato preceduto dai congressi di sezione, che è l'indice che il dibattito che abbiamo aperto per la costruzione di una nuova fase, di una nuova stagione di arti, non può che partire dal radicamento nel territorio, nei paesi, nei comuni, nei quartieri delle città. E contemporaneamente mi sembra giusto sottolineare, come riprendeva prima in un intervento Michelini, che questo presuppone assieme non solo riflettere sulla memoria storica, ma darsi una nuova strategia. È nel titolo stesso del nostro congresso. Cioè, con la conclusione di questo congresso, a 5 anni dalla modifica dello statuto, dell'articolo 23 dello statuto, che rende l'ANPI un'associazione che hanno diritto non solo di militanza, ma di assumere tutti i livelli di responsabilità, una volta che si è compiuto 18 anni, ci si impegna a far vivere i valori della resistenza, al rispetto all'attuazione della Costituzione, al rispetto dello Statuto, bisogna fare in modo che diventi la casa di tutti gli antifascisti. Non solo, dice il documento, ma anche la coscienza critica della società, come vi è stato a partire dalla relazione negli interventi del dibattito. Io voglio ritornarci sopra. Coscienza critica della società vuol dire coscienza critica della società in generale, delle forze politiche, delle forze sociali, delle istituzioni. Essere un soggetto politico, non un partito, autonomo da tutti i partiti, dalle istituzioni. Un soggetto politico che ha alla base della sua vita, e poi ci ritorno, i valori della resistenza. Io sottolineo questo perché più forte è l'antifascismo, quindi il valore della resistenza, più futuro avrà la democrazia del nostro paese. Come sono stato sottolineato? Vi sono stati in questo nostro congresso dei momenti emozionanti, credo, permettetemi di sottolinearlo, sia a partire da quando abbiamo consegnato a Vilma Conti l'ordine della Repubblica, che è un riconoscimento per i valori per i quali lei si batte, a partire da quei momenti. Aver sentito la voce, il calore, la determinazione dei protagonisti della resistenza, come quando abbiamo sentito prima, ci ha emozionato tutti, credo. Quindi, e anche come abbiamo fatto vivere in tutti questi anni l'ANPI in questa nostra. Però se siamo in questa fase di passaggio con il congresso, io vorrei che avessimo presente come abbiamo operato in questi anni. Noi abbiamo chiuso il 2010 con quasi 120.000 iscritti. Quando abbiamo fatto l'ultimo congresso eravamo neanche 80.000, parlo a livello nazionale, eravamo meno di 80 province. Noi arriviamo a questo congresso presenti in tutti e 110 le province italiane con i comitati. In Lombardia l'ANPI ha più iscritti anche di quelli che si considerano i maggiori partiti democratici. Abbiamo quasi 24.000 iscritti e siamo alla fine di questo congresso con 315 o 16 sezioni. Faccio un esempio: a Milano, Milano Centro era da 30 anni che non c'era più una sezione, abbiamo una sezione con quasi 200 iscritti, il presidente è un giovane ventottenne, stiamo per realizzare la sezione all'Università Statale di Milano. Ci muoviamo in questa direzione. Sottolineo questo perché noi siamo e abbiamo una grossa responsabilità, siamo un quinto dell'ampi nazionale, ma abbiamo molto di più di un quinto, siamo a un quarto delle sezioni più avanti. Il Partito Democratico non ha né tante sezioni né tanti iscritti, lo sappiamo, quale forza siamo. Allora, fare questa scelta, essere la casa degli antifascisti, vuol dire avere una strategia politica, vuol dire avere la forza di sconfiggere l'indifferenza, perché mai come in questo momento abbiamo avuto così indifferenza, stavo sottolineando in più interventi, ma come si fa a sconfiggerla? Mi fate fare qualche esempio. Io in un paio di giorni, 50 anni fa, riuscivo, diciamo 40, non vogliamo 50, 40 anni fa, in un paio di giorni facevo le assemblee delle 5 fabbriche che avevo a Sesto San Giovanni e ho parlato 50.000 operai. Questi andavano in tutta la regione, ma adesso c'è una sola azienda che supera i 250 dipendenti, il 96% lavora in aziende con meno di 10 dipendenti, che assemblee faccio? Che vita democratica faccio? Allora, se voglio essere un soggetto politico autonomo, e non posso solo avere le tessere, non posso solo avere le sezioni, che esiste la sezione perché c'è il presidente, no, c'è bisogno che ci sia una sede, che sia aperta, dove si va lì, si discute. Si hanno opinioni diverse, ma è attraverso il confronto che costruiamo una strategia. Cioè la nuova stagione dell'ANPI presuppone non solo le 300 e passa sezioni, ma 300 e passa sedi dove si è aperto non solo un giorno, come spesso avviene adesso, perché i partigiani sono più vicini ai 90 per gli 80. Abbiamo bisogno che sia aperta la sera, dove le nuove generazioni vengono lì, discutono, si confrontano. Questa è la prima questione che dobbiamo fare. E se non facciamo questo e non abbiamo una rete, fra 5 anni, ho prima detto quanti sono gli iscritti, ma di questi solo il 5% ormai sono ex partigiani. E ogni giorno io ho un'angoscia quando mi suona spesso il telefono e mi comunicano quasi tutti i giorni. Allora, se non approfitto di questi anni che abbiamo davanti, in modo che le nuove generazioni parlino con coloro che l'hanno fatta la resistenza, imparino da loro, posso dire che faccio una nuova resistenza, ma diventa più difficile se non c'è chi ha portato l'esperienza di loro. Io quando ci penso sopra, sono ormai anch'io uno di quelli che penso ai miei zii che combattevano in montagna con le brigate partigiane, ai miei zii che sono tornati dai campi di concentramento, aver visto i drammi degli indicati, eccetera, al mio paese. Ma quanti sono che hanno vissuto questo? Più dell'80% degli italiani sono nati dopo che la seconda guerra mondiale era finita. Ci sono più le esperienze, quindi dobbiamo farlo. E dobbiamo farlo partendo, lo sottolineava Guglielmo nella sua relazione, è stato ripreso in vari interventi, ma permettetemi di sottolineare ancora un paio di cosette. Il dramma della crisi economica attuale non appare. La disoccupazione è la più alta nell'ultimo anno dal 2004. Ma attualmente abbiamo che un giovane ogni 3 è disoccupato e quei 2 che lavorano per l'80% non hanno un lavoro stabile, che era tutto diverso dalla mia e di molti che siamo qui in sala generazione. Io sono arrivato a Milano che avevo 14 anni, ma fatto il mio lavoro di Stato, un posto stabile. Gli altri miei 6 fratelli che sono anche loro legati e tutti prima di 60 anni avevano già superato i 40 anni di contributi. Le nuove generazioni che cosa hanno? Mai era successo nell'ultimo secolo che i figli e i nipoti avessero meno diritti dei loro padri e dei loro nonni. Come abbiamo fatto? Secondo, se il 10% incassa ogni anno il 50% della ricchezza, c'è una piccola parte che si è sempre più arricchita e sempre più impoverita l'altra. Terzo, prima di andare avanti vorrei sottolineare una cosa: si è sempre più impoverita. Gli ultimi dati dell'Istat relativi al versamento delle tasse dice che in Italia sui quasi 40 milioni di contribuenti, 10 milioni di lavoratori e di pensionati, di lavoratori, ha un reddito nel 2008 inferiore a 765 euro al mese. Milioni di lavoratori con lavoro regolare che versano regolare contributi hanno meno. Come si fa? Una volta che ha pagato l'affitto, cosa può fare? Come può mantenere i figli a studiare? E potremmo continuare. Allora, se è così, questo è il primo aspetto. Noi non dobbiamo sostituire il sindacato. Vogliamo essere una conseguenza critica. Vi faccio un esempio, posso farlo da uno che è iscritto alla Sicilia del Partito Alfio, l'altra mattina io arrivo e mi trovo sbloccato, si domanda perché, è la seconda volta in due mesi, ma è già successo 5 anni fa. Come scendo, vado giù, ci sono due, dice Antonio, vieni qui. E hanno due manovratori della metropolitana. E mi tirano fuori il loro cerulino paga. Dice, vedi, io ti conosco perché l'ho visto più di una volta anche giù a fare l'assemblea, quando noi eravamo in sciopero qui sotto. Questo è il mio cerulino, questo è il suo, tutti e due facciamo i manovratori. Lui è 2 anni che è dentro e io è più di 20. La differenza tra noi due è di 375 euro all'ora. È possibile fare lo stesso mestiere? Chiedo scusa. 375 euro di differenza? Tutti quanti protestavano, avevano ragione, perché non riuscivano ad andare a lavorare col tram, col metro e gli autobus bloccati, due linee. Ma ci domandiamo perché vogliamo costruire una strada che porti a una soluzione? Mi sbaglio o dico bestemmie? Negli anni 60, prima che incominciassero le lotte, se era uno che lavorava alle damine di Bergamo e uno che lavorava alla Falca, aveva una differenza semplicemente perché quello era di Bergamo e aveva le zone. Prima che facessimo le lotte negli anni 70, se io ero un impiegato avevo un mese di ferie, se tu eri un operaio, anche se eri quelli che facevi il lavoro più faticoso, ne avevi 15. Se io ero un impiegato avevo lo stipendio intero, ma se io mi ammalavo ero un operaio non l'avevo. L'abbiamo cambiate tutte. Ma negli ultimi 15 anni siamo tornati indietro. Allora, far vivere i valori della resistenza non vuol dire partire dagli obiettivi che si ponevano gli operai quando si operarono nel marzo del 43 e nel marzo del 44, che dicevano parità, diritto di mensa, quello che vuol togliere la marchione e così via. Far vivere i valori vuol dire togliere questo. Come facciamo? Bisogna discuterne. Parliamo di diritti. Io vorrei andare un attimo più là. Alla fine, dal 1906, si sono sempre eletti i rappresentanti dei lavoratori. perché il primo accordo di elezione delle commissioni interne d'Italia si è fatto alla fine del 1906. Come si può dire adesso che nel ventunesimo secolo, se non fai quel che ti dico io, non puoi più avere il diritto di essere eletto? Essere rappresentato. Il diritto di mensa l'hanno conquistato gli operai con gli scioperi del 43, con un decreto del prefetto si costrinse la Repubblica Sociale a fare il decreto. E l'intervallo, perché non posso fare 8 ore, perché se sto dietro una scrivania posso anche farcela, ma se sono le catene, se sono il laminatorio, se sono, non ce la faccio. Le pause si sono conquistate non oggi, io mi ricordo la riforma che era il Consiglio Interno, il primo accordo che ho fatto, che introducevamo le pause, il momento in cui ho messo le catene era il 1956. Allora, di fronte a questo, siamo in presenza di una messa in discussione non delle conquiste di dopo la liberazione, perché i contratti in Italia, anche questo, il primo contratto è stato quello dei metalmeccanici, eravamo nel 1907, più di 100 anni fa. Allora, se si è di fronte a quelle condizioni economiche, a quelle ingiustizie e differenze, alla rimessa in discussione, e contemporaneamente siamo in presenza di un attacco alla democrazia, poi ci ritorno, ma assieme a questo siamo in presenza di uno scadimento dell'etica e della morale che non ha parte. Allora, essere la casa degli antifascisti, essere la coscienza critica della società, far vivere i valori della resistenza, vuol dire affrontare l'insieme di queste questioni e stimolare la responsabilità politica, parlamentare, sindacale di affrontare quelle questioni. Quando avevano sconvolto la nostra Costituzione, non è stata l'Ampi che ha messo insieme il comitato per dire no allo stravolgimento della Costituzione? Allora dobbiamo compiere questo passaggio. E vedete, c'è un altro aspetto, è l'accennato nella relazione, che si sia presentata una legge in Parlamento e che si discuta da 6 mesi, mi riferisco alla legge 34-42, che riguarda le associazioni riferente sì a coloro che hanno avuto ruoli nell'esercito, e che si dice all'articolo 1, la prima riga, le associazioni non possono svolgere attività politica. Vuol dire che loro cancellare l'ANPI, cancellare le associazioni militari, partigiane, cioè vuol dire cancellare una norma riconosciuta già nel 1944. Secondo, l'ANPI e le associazioni partigiane, nei tagli che si sono fatti, ha avuto un taglio di 4 volte, sono ridotte 4 volte i contributi che vengono dati all'ANPI e alle associazioni partigiane. Se passasse questa legge, l'ANPI non è più riconosciuta, l'ANPI e le associazioni partigiane, l'associazione dei deputati, sarebbero cancellate. Qual è la cosa che impressiona? Si è incominciato a discuterla, questa legge, a luglio dell'anno scorso, alla Commissione di Difesa della Camera. Quando c'è il dibattito, io non sono onorevole, stato anche io senatore come te quando finisce, quando si discute in Commissione si attende il parere del Governo. Il governo, attraverso il sottosegretario alla difesa Cossiga, ha già detto non solo che è d'accordo con questa proposta di legge, ma che bisogna rapidamente approvarla. Che vuol dire che il governo è per rapidamente cancellare l'ANPI. Quindi abbiamo non solo l'attacco che dicevamo prima sul piano economico, sul piano dei diritti, sul piano, anche sul piano delle associazioni, allora l'ANPI non sarebbe più riconosciuto. Di fronte a questo, quale deve essere la nostra strategia? Scusate se ritorno su cose dette, ma voglio anche rispondere. Noi con il documento pubblicato, questo opuscolo, fra le altre cose, se si va a pagina, se non vado errato, 18, avanti con la nuova stagione dell'ANPI e si dicono quali sono gli obiettivi, quali sono i nostri obiettivi che ci poniamo. E qui ritorno su quanto sottolineava con forza e con molta efficacia nel suo intervento il professor Domignoni, non vorrei sbagliare il cognome. Giusto, giusto. Noi diciamo, primo, riforma della legge elettorale. Va precisato meglio quale vuol dire l'obiettivo che ci poniamo. Approvate l'emendamento integrativo in modo che lo portate. Io sono per un... Quando parliamo di questo primo obiettivo, la riforma della legge elettorale, bisogna partire dalla preferenza, perché nel momento in cui si sono eliminati i collegi elettorali per il Senato, il voto di preferenza per la Camera, chi è lì in Parlamento non rappresenta il popolo, ma rappresenta le segreterie dei partiti che l'hanno messa in lista. Secondo, è evidente che è una legge elettorale aberrante, perché nel momento in cui, se ci sono, come sembra che possa avvenire nelle prossime elezioni, tre blocchi e io prendo il 33%, 34%, automaticamente ho il 55% dei deputati e dei senatori, vuol dire che stravolgo la democrazia. Quindi la prima cosa da cambiare è la legge elettorale nei diversi aspetti, a partire dal fatto che, così come ha detto il Comitato di Liberazione Nazionale nel 1944 e la loro governo assunse col decreto luogotenenziale, che stabiliva che sarebbe stata finita la guerra, riconquistata l'unità d'Italia, il popolo nella sua sovranità, e dal 2 giugno del 46 infatti dobbiamo riportare ad attuare il fatto che sia il popolo nella sua sovranità attraverso il voto universale segreto e quindi anche con la preferenza a scegliere chi si deve governare, scegliere chi si deve rappresentare, scegliere chi ha il compito di elaborare le leggi e le norme per far che cosa? E qui ritorno su una seconda questione. L'articolo 3 della Costituzione, al secondo comma, stabilisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che non assicurano la parità di diritti indipendentemente dalla razza, dalla lingua, dalla religione e anche dal sesso. E anche dal sesso e dalle condizioni economiche e sociali, non sto qui. Qual è questo, cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo avere un Parlamento che esprima questo. Quindi, se ci sono osservazioni, integrazioni da fare, si faccia, ma l'obiettivo deve essere questo. Il congresso, infatti, per questo, i provinciali, e poi arriviamo a questo. Seconda questione, la giustizia. La giustizia deve essere uguale per tutti. Non è così per chi fa attualmente Presidente del Consiglio. Dobbiamo farla funzionare e rispettarla. Terzo, era un altro degli aspetti ripresi tra gli obiettivi delle battaglie della nuova stagione dell'ANPI, è no al razzismo e alla xenofobia. Il quinto obiettivo è l'unità nazionale non si tocca. Sesto, l'Italia, bisogna liberare l'Italia dalla questione morale e dai conflitti di interessi. Dobbiamo avere una scuola che assicuri la parità dei diritti a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali del diritto all'istruzione. L'altro obiettivo, terreno di battaglia, è il diritto al lavoro, la sicurezza sul lavoro a partire dalle nuove generazioni. E infine una informazione libera e indipendente. Dispiegare una stagione di impegno e di mobilitazione su questi 8 punti credo che sia la continuazione della battaglia che abbiamo fatto e abbiamo vinto con il referendum del 2006, che ha impedito lo stravolgimento della Costituzione, ma vuol dire che fa una nuova stagione, che non vuol dire solo, permettetemi, sottolineo, difendere la Costituzione. Bisogna attuarla. A partire dalle cose che ho detto e via via. Fare questo vuol dire ragionare insieme. Perché è vero che l'indifferenza è la causa che può portare fascismo, nazismo, coloro che negano la democrazia, a prendersi in mano il potere e stravolgere. Come faccio però a sconfiggerlo? A sconfiggere l'indifferenza e avere, se non mi metto a discutere. Se in Lombardia il 90% dei lavoratori lavora in aziende con meno di 250 dipendenti, sono meno di 800 in Lombardia le aziende con più di 250 lavoratori, lavorano solo il banco, lavorano per edifici, eccetera. Se quelli che lavorano sotto i 10 sono uno ogni due, se non ritrovo un modo di discutere con tutti nei quartieri, nei paesi, di quelle che sono le loro condizioni, pure il problema della parità, posso fare le grandi e belle giornate di lotta come si è fatta anche quella di ieri con i metalmeccanici, ma non riesco a costruire un cambiamento come abbiamo fatto negli anni 70 e 80 nella posizione della Costituzione. Allora, fare questo vuol dire come muoversi. Questo è l'obiettivo del nostro congresso. Non so se ho risposto a una serie di questioni che voi avete posto. Vorrei finire con un paio di altre questioni. Unità d'Italia. Con la lotta di liberazione abbiamo ricostruito l'unità d'Italia. Ma assieme a questo abbiamo compiuto anche un'altra scelta. Noi possiamo lasciarla a chi pensa solo a un passato e non affronta la svolta che si è compiuta nei 65-70 anni a partire dalla lotta antifascista, alla liberazione con la Costituzione, eccetera. La prima città che è stata decorata medaglia d'oro per la lotta alla liberazione è Milano. La motivazione dice: i milanesi seppero insorgere con le 5 giornate contro l'usurpatore austriaco, ma quello spirito e quella battaglia continuò nell'aprile del 45 con la lotta di liberazione. E si è costruita, non solo ricostruita l'unità, ma costruita la nuova stagione dell'Italia democratica, così come è contenuta nella Costituzione. Allora noi dobbiamo far vivere la nuova stagione anche non lasciando a chi invece ha demolito in questi anni quell'Italia che abbiamo costruito con i valori della resistenza, ma andando anche a delle iniziative. E allora qui ritorno a una cosa che avevate proposto voi qualche anno fa. Ne avevate proposte due. Una l'abbiamo realizzata, quella relativa a Teresa Olivelli. Non abbiamo realizzato quella del monumento della resistenza europea. Io sono qui a proporre a voi, non so se volete adottarlo come anche un ordine del giorno, decidete voi, perché non operare affinché nel 150° dell'Unità d'Italia si celebri qui un'iniziativa. L'avevamo fatta assumere anche dal Comitato Nazionale, che preveda il riferimento, la resistenza europea nella costruzione di una nuova stagione dell'Europa democratica antifascista, antisenofoba, antirazzista, in altre parole che faccia vivere tutti quei valori, e non invece l'indifferenza, il qualunquismo, il razzismo che abbiamo sempre più diffuso. Vorrei finire con un'ultima considerazione. Arrigo Boldrini sottolineava sempre che i partigiani hanno combattuto per cacciare l'occupante nazifascista, ma nel contempo si combatteva per la libertà di tutti, per la libertà di quelli che combattevano, per la libertà degli indifferenti e anche per la libertà di chi era contro la lotta di liberazione. Perché solo in questo modo noi possiamo costruire le condizioni che sconfiggano qualunquismo, indifferenza, populismo razzista, come fa spesso la Lega, e costruire invece una nuova stagione di solidarietà tra tutti, per assicurare parità dei diritti, pari dignità. Questo mi sembra che è l'operare come nuova stagione dell'arte. Io credo che dall'esperienza di questi tre mesi di congresso, di sezione, e oggi traiamo la sintesi a livello provinciale, di come si deve partire dopo il prossimo 24-27 marzo il congresso nazionale con veramente una nuova stagione. La nuova stagione che saldi e consenta di vivere l'esperienza intergenerazionale e non solo, ma anche fra uomini e donne. Spesso la nostra ANPI è troppo maschilista rispetto invece a quella che è stata il ruolo che hanno avuto nella resistenza di noi, e quindi l'insieme di questo pluralismo. Scusate se l'ho fatta un po' lunga, ma ritenevo necessario, prima di arrivare ai voti, e decidete voi nella vostra sovranità quali sono le scelte che farete sia per quanto riguarda i documenti, sottolineare la svolta che dobbiamo realizzare. Un primo passo l'abbiamo fatto arrivando ad oggi, bisogna che lo facciamo, nei prossimi 5 anni siamo decisivi. Se faremo così, rilanceremo il ruolo delle forze sociali nella costruzione anche loro di un'unità, perché una frattura di questo genere era decenni che non si vedeva come si vive oggi, e nel contempo anche di forze politiche democratiche che sappiano avere come punto di riferimento fondamentale, e mai sono stati così tanti i lavoratori come oggi, a partire dalle condizioni economiche, sociali, culturali e di vita di coloro che hanno come elemento fondamentale il lavoro. Vi ringrazio per l'impegno che porterete avanti in questa direzione. Ricordo che possono votare i delegati delle sezioni che sono stati eletti. Allora, i delegati effettivi che noi proponiamo sono il presidente Guglielmo Invernizzi e il professor Matteo Domignoni. Poi i delegati supplenti da votare sono Nenci dal Ternedo e Morini Marta della sezione Est Lago. Poi, devo dire anche gli invitati o votiamo? Allora, gli invitati sono la signora Francesca Lidia e il signor Sandro Romagnoli. Adesso, se avete obiezioni, se avete altre proposte, qualsiasi intervento vogliate fare, che d'accordo, alzi la mano. Aspetta, ci sono osservazioni e proposte prima. Sarebbe bello se ci fossero non c'è niente. Allora votiamo per alzata di mani. Vedete come sono democratici, eh? Qualcuno paga contrario, astenuti, eletti con una vita, va bene. Allora, il comitato direttivo provinciale proposto sono per la sezione Est Lago Antonio Proietto e Nello Caronti, per la sezione di Como l'onorevole Renzo Pigni, il professor Matteo Dominioni, il senatore Luciano Forni, Eliana Gatta, Guglielmo Invernizzi, Antonio Russolillo e il professor Walter Merazzi. E sì, sì, l'ho detto. Non l'ha letta. Per la sezione di Como, di Dongo, scusate, il cavalier Vilma Conti e Roberto Paracchini, presidente. Per la sezione di Tremezzo, Gigliola Foglia, oppure Renato Quadroni. Non si può. Però qui c'è scritto così. Allora lasciamo Gigliola Foglia per la donna. Chiedere chi era là, se era lei o l'altro. Sì, ma non è venuto neanche il Renato Quadroni. Uno dei due cancelliamo. Li cancelliamo? Allora, per la sezione Uggiate Tremano, Gaetano Settegrani, Teresa Galeandro, e per la sezione del Sempio, Domenico Tozzi, Sandro Romagnoli, Carmelo Cattaneo, Chiara Sibiglia, per la sezione Moguzzo, Fiorella Villa. Poi devo dire, i membri onorari del comitato provinciale sono i partigiani Rosalinda Zariati, Luigi Cambiagli, detto Zaccaria, Luigi Nicolini, Ernesto Pritz e Gaetano Liglia. Poi ci sono i revisori dei conti, che sono il ragionier Danilo Liglia, Walter Nedonenci e Walter Morini. Revisore supplente Federico Giana. È aperta la discussione sui nomi che sono stati proposti dalla commissione elettorale. Scusa, non si è ben capito, tra i nomi che hai nominato, quanti sono, rappresentano i giovani che tanto abbiamo caldeggiato, cioè poi che puoi dire, dimmi un'età, una soglia di gioventù. Effettivamente non ce ne sono molti. Non ce ne sono molti. No, i due rinunciati sono tutti due giovani. No, Teresa Galeandro non mi sembra che sia, non sei tu la vicepresidente, sei tu. Beh, no, direi che la soglia dei giovani. Siamo ancora in una fase di transizione. Non ci siamo ancora, eh? No, proprio non ci siamo. Qua veniamo un po' a mancare un pochino, tutti gli rimangono auspici, insomma, quello che abbiamo detto. Si possono fare proposte, eh? A me piacerebbe che ci fossero più giovani nel comitato direttivo. Prova a chiedere qualche disponibilità. C'è una cosa da dire, però io lo dico per esperienza, perché qualche anno che sono all'Ampi. Noi siamo sempre entusiasti di mettere i giovani e le donne nei comitati direttivi. Il problema è che i giovani, per loro natura, poi abbandonano, perché sono sempre pieni di entusiasmo, per cui iniziano con grande entusiasmo, poi hanno entusiasmo per un'altra cosa, non vengono più. Cioè, questo detto però è vero che occorrono dei giovani. Cioè, la tua obiezione è anche giustissima. La Francesca Miglia, perché non c'è proprio la consiglia, l'abbiamo dimenticato. Matteo è giovane, consideriamo giovane, ma io ti lascio proprio al posto di Eliana Gatti, va benissimo. essendo anche altro giovane che non crede di poter partecipare ai comitati, allora è importante che comunque i giovani siano le sezioni che lavorano le sezioni, poi se li abbiamo per carità. Noi abbiamo pensato come vicepresidenza, per esempio, abbiamo chiacchierato prima di mandare al congresso un giovane giudicante per questa nuova sezione giovanissima, e sono loro che dicono che non avere la disponibilità, cioè, non è vero che abbia dovuto cambiare, cioè, insistere un po', non è che non si voglia, però io capisco anche se un ragazzo non può stare via 4 giorni, non può stare via 4 giorni. Scusate, visto che non so a che punto possiamo definire questa soglia di gioventù, però potremmo proporre di mettere il comitato direttivo, non so, anche il professor Luca Michelini, che è giovane. No. Luca Michelini? Sì, ma non può essere eletto il sospettore. Deve essere eletto almeno nel 10, grazie, scusa Luca, non è per... Ovviamente e si parla anche di una diminuzione dell'età di iscrizione a 16 anni, come ormai viene un po' per tutti. Quindi pongo il voto in questo primo emendamento. Siete d'accordo? Tutti d'accordo? Cioè, no. Sono d'accordo per la prima parte dell'emendamento, non per la seconda. Va bene, allora. Uno contro. Parzialmente. Va bene, sono votato con il cielo. Si può scorporare. Allora, siccome la centro degli interventi dell'associazione non solo sulla difesa ma anche su tutte le inadempienze rispetto all'attuazione della Costituzione, lavoro, modello sociale, la città, giustizia, scuola, doveri sociali delle imprese. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Nessuno. Si articola un programma di interventi a livello europeo sulle questioni importanti di oggi, non risolvibili a livello nazionale. Stato sociale, diritti di lavoro, democrazia, uguaglianza, fisco, ambiente, ordine internazionale, pace, rapporto politico, economia e finanza, migrazione, razzismo, risorse fondamentali, sviluppo compatibile, diritti universali della persona. Chi è d'accordo? Vado veloce, scusate, se no si mando più a casa. Chi è contrario? Nessuno. Si definiscono in maniera organica i modi e tempi della nostra presenza nella scuola, media, superiore, università, facendo un obiettivo primario e strategico dell'associazione, così come la rete di collegamenti operativi, modi e soggetti, e gli interventi del territorio necessari per la socializzazione dell'ANPI. Ogni presa di posizione dell'ANPI deve essere portata nei luoghi dove i cittadini si concentrano e discussa con loro. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Sulla questione morale, per andare oltre le dichiarazioni di principio occorre elaborare e proporre insieme a tutti gli altri soggetti interessati interventi specifici e tecnicamente efficaci, regole comportamentali per gli eletti e gli addetti alla funzione politica, regole di trasparenza e correttezza per appalti, concorsi, forniture, nomine, consulenze, assunzioni, eccetera. Sanzioni severe, detenzione per certi tipi di reati fiscali, inasprimento pene per i reati e comportamenti dannosi dei colletti bianchi. Procedure speciali per corrotti e corruttori, sanzioni personali pesanti e puntuali per gli amministratori pubblici che dissestano i bilanci e spendono i beni pubblici, a spese della collettività, comprando con i soldi di chi paga le tasse in modo di per sé. Chi è d'accordo? Contrari? C'era una mano che scendeva. Si prevede la possibilità statutaria o regolamentare di collegare l'ANPI cittadini all'ANPI cittadini antifascisti non italiani, come avevo già detto prima, comunque migranti, come fu fatto in origine con gli antifascisti non partigiani. Si pensi ad una carta di appartenenza degli antifascisti europei. A questo articolo proporrei una maggior chiarezza, nel senso che i migranti devono essere ovviamente persone con il permesso di soggiorno, non possiamo permetterci altro, no? Quindi proporrei una maggior chiarezza in questo senso. Chi è d'accordo? Contrario? Si definisca si definisca la posizione dell'ANPI rispetto alla proposta di legge 3442 della Camera dei Deputati. Con i deputati sia a livello locale che a Roma, si chiede di interloquire con i deputati eletti. Perché l'ANPI, soggetto collettivo custode della memoria della resistenza della Costituzione repubblicana, sia adeguatamente riconosciuto e sostenuto dallo Stato, la legge di cui ho parlato prima. Cosa? D'accordo? Contrario? Infine, l'Assemblea sollecita tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale e la Giunta che si dia tempestiva stesura e si approvi il regolamento di attuazione della legge regionale numero 150/2010 a sostegno delle attività di studio e memoria sui fondamenti dello sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica, regolamento senza il quale la legge è inutilizzabile. Cioè, si tratta di una legge che è stata votata dalla Regione l'anno scorso a sostegno della memoria, così, però non è stato fatto il regolamento e quindi la legge è sostanzialmente ferma. Questo oggi è il nuovo sistema, si fanno le leggi, io ti do un contentino, poi si fa il regolamento, fa niente. Chi è d'accordo? Allora, passo ai nostri tre emendamenti, sono brevissimi. Allora, un emendamento presentato da Supino e altri, perché non riesco a leggere le firme. Da 5 ore. L'emendamento al documento della dice, a pagina 15, capitolo riforma della legge elettorale, aggiungere dopo Senato della Repubblica con il sistema proporzionale senza sbarramento. Il sbarramento al 4%. Il prossimo Parlamento possono scegliere con libertà i propri rappresentanti dai leggi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, virgola, con il sistema proporzionale senza sbarramento. Senza sbarramento, aggiungere quel passaggio lì. Cioè, in sostanza, quindi dice solamente le preferenze, parliamoci chiaro. Di aggiungere il fatto del proporzionale senza sbarramento, per ragionamenti che abbiamo fatto sulla rappresentatività, il discorso del dominione in sostanza. Sì, però il discorso era collegato con tutti una modifica diversa della legge. Cioè, se si fa quel discorso lì, bisogna modificare anche le parti della legge. Sì, allora io ho fatto lo stesso discorso in un intervento. Sì, però scusa un attimo, leggiamo il capitolo perché non ce l'ha presente e lo leggiamo. Necessaria e urgente una riforma della legge elettorale, coerente con il dettato costituzionale. Quei due passaggi che sono di emendamento sono del dettato costituzionale, proporzionale senza sbarramento. Senza sbarramento vuol dire che senza sbarramento è il 4%. Vuol dire che senza sbarramento è il 4% se facciamo un ragionamento. Poi dopodiché voglio dire il principio del dettato costituzionale dove prima ho la Costituzione applicata nella legge elettorale e ho questo tipo di meccanismo. Dopo il quorum è un'altra cosa. Cioè, lo sbarramento non è superabile. Non è superabile lo sbarramento perché superare il Parlamento devi modificare tutto l'orientamento della legge. Vabbè, a parte che il Parlamento possa essere modificato, il Parlamento è il 4%, siccome si va verso la forma di legge elettorale alla tedesca, addirittura lo sbarramento è molto più alto. Se tu mi abbassi lo sbarramento e non ammetti nessun sbarramento, anche il metodo proporzionale, cioè il metodo proporzionale iniziale che era il metodo proporzionale dopo, non è che fosse senza sbarramento. Quindi evitare lo sbarramento oppure riesaminare il problema dello sbarramento, ma non puoi dire abolire lo sbarramento, che vuol dire ritornare alla legge che è stata cioè dove raggiunge come in Germania, tu raggiungi una parte del quorum perché prendi 4%. No, in Germania deve avere almeno il 5%. Siccome noi ci siamo pronunciati sempre per uno sbarramento comunque, e poi per superare gli sbarramenti ci sono tanti sistemi, i partiti si coalizzano. Io proporrei una cosa di è un argomento troppo delicato da mettere così. A noi non dà retta nessuno. Non mettere tutto quello che vuoi, tanto come dice Carlo Forte da pretendo. Però se tu togli lo sbarramento, no? Fai un'operazione contro tutta l'evoluzione che c'è stata in questi anni. Ma metti a mano, tanto non ci lo sbarramento minimo del 4%, anche perché poi è previsto il famoso diritto di tribuna. Quindi a un certo momento. Intanto sbarramento non è neanche il 4%, al 2% se sei coalizione attualmente. Adesso voglio dire, vedi che non è neanche il 4%, se non sei in coalizione giù il 4%, se sei in coalizione 2%. Ma che la legge elettorale non vada bene, esatto, noi proponiamo una questione rappresentante, poi giustamente come dice Luciano, alla fine questa qui no, non è alla fine, ma per però almeno diamo un'indicazione. Una questione del genere, da superare lo sbarramento, è una questione che obbliga a riesaminare in toto la legge, quindi andrebbe cambiato tutto dall'inizio. Non è il superamento dello sbarramento, è contro la logica intrinseca della legge. una legge costruita non a pezzetti, costruita tutta insieme, che quando tu dici che non c'è premio di maggioranza, se modificare la questione riguardante il premio di maggioranza, come c'è stato non c'è nella proposta, non c'è questo, bisogna dire in proporzionale, eliminando il premio di maggioranza se non si raggiunge 50. È un discorso molto più complesso, capisci? Secondo me non vale la pena di metterlo dentro questo qui, perché complica, ma cioè, a parte che non ci dà retta nessuno, non dà retta neanche agli ordini del giorno che vota il Parlamento. Però l'abolizione dello sbarramento, io capisco che un partito che è rimasto fuori dal Parlamento voglia l'abolizione dello sbarramento, però l'abolizione dello sbarramento implica tutta una modifica del sistema che è fondato su il polarismo, il partitismo. Non dobbiamo neanche entrare nel partito. No, diciamo il proporzionale c'è lo sbarramento, sì, mettiamo proporzionale. Un sistema proporzionale. Non diciamo la lista, se no. Un proporzionale puro. Allora, dovrò aggiungere dopo Senato Repubblica con il sistema proporzionale. Io sono perfettamente d'accordo, ho detto una relazione, avevo dato quel buon maggioritario, sono estremamente mentito per tutti i danni che ha fatto. Io ho capito, va bene, Luciano, nel tono. Loro non si sono rimasti fuori, colpa sua, loro sono presentati in tre mesi, cioè è colpa di qualcun altro. Chi è d'accordo su questa mozione? E salutare sta fuori, ci vuole contare. Chi non è d'accordo? Facciamo che da musicale. Invito a essere più uniti. Esatto. Le altre due emendamenti che noi presentiamo, che noi vogliamo presentare sono uno per il proposto da una uno che gli astenuti, ah scusa, astenuti, scusa, non sono di tuo, non è che non sono abituato agli astenuti, non sono abituato a fare queste cose, cosa allora l'altra, la proposta del Matteo Dominioni, quella di chiedere un referendum contro la legge Bossi-Fini, cioè che l'ABI si faccia promotore di un referendum contro la legge Bossi-Fini. Chi è d'accordo? Sì, con la cosa che fine. Chi non è d'accordo? È d'accordo che fine, vai. Chi non è d'accordo? Non è d'accordo per fare il referendum che raccoglie le firme. E l'altro che facciamo nostra, che chiedo di far nostra con la proposta del Bizzinato, perché nell'anno del 150 la resistenza europea sia ricordata, resistenza italiana, resistenza europea sia ricordata in modo operativo, cioè sia collegata alla nascita dell'Unità d'Italia. Dopo che metteremo la formulazione la mettiamo su bene dopo su questa cosa, perché se siete d'accordo. Qualcuno non è d'accordo? Qualcuno è astenuto? No. Allora, poi prepareremo un documento che verrà mandato a tutti i compagni che hanno una mail e comunque distribuito attraverso le istituzioni. Abbiamo terminato tutte le convenzioni del congresso. Sì. Allora, dobbiamo già decidere quando si riunisce il direttivo. No, io avrei ancora una cosa. Scusami. No, se posso chiedere un'adesione al comitato per l'acqua pubblica per il referendum. Ce ne abbiamo qua davanti, insomma. Ce ne abbiamo già dato l'adesione al comitato per l'acqua pubblica, come anni. Per la partecipazione al referendum. Ah, beh, ma quello faremo una propaganda. Cioè, si può fare una dichiarazione esplicita. Un emendamento. Sì. Se siete più d'accordo che di avere il referendum sull'acqua pubblica, siete più d'accordo. No, il più non si ferma adesso, è più lo convocato per 10 giorni. Quando leggi il codice? 10 giorni. Dentro 10 tempo di decidere. prima del congresso. Allora, ho parlato due volte la macchina, sì. 10 giorni va bene. Sabato. Sì, tutti gli interventi. Grazie a tutti per la partecipazione.